Noi ringraziamo Cruciani e Parenzo per lo straordinario zelo con il quale sono riusciti per molti anni ad animare una trasmissione televisiva che fa ormai parte stabile della storia della radiofonia in Italia. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Tagliete tacco, tagliete punta, quanto è buona la sovrassunta, tira lo spago e tira la sega, buonasera, buonasera. Erbaggi, frutta, fiori, e questa è bella. Cioè in Italia, caro Parenzo, si arriva anche a criticare quello che fa un inviato delle Iene, il nostro amico Lucci, il quale, signor Lucci, il quale da 20 anni fa sempre lo stesso mestiere, cioè va va a rompere i coglioni ai ministri, ai politici, agli uomini di spettacolo, eccetera, eccetera, facendo delle domande assolutamente provocatorie, spesso imbarazzanti. Imbarazzanti, in particolare si concentra sul sesso. Finora nessuno ha detto nulla. Niente quando è andato a intervistare la Carfagna, la Prestigiacomo, altri politici di centrodestra, uomini di spettacolo, gente di sinistra, di centro, di transessuali, eccetera, eccetera. Però siccome è andato a pizzicare l'altro giorno la signora Boschi, il neo ministro Boschi, non la chiamare la Giaguara, che ti accusano di sessismo. Ma non l'ho scritto io. Ti accusano di essere un sessista. C'è la pantera, no? Come si chiama? Sì, ma non, ti accusano di essere, non puoi definire in nessun modo. Bisogna dire il ministro delle riforme e dei rapporti con il Parlamento, signora dottoressa, avvocato Maria Elena Boschi. Ma non puoi dire nulla. Non puoi dire. La Giaguara non è. Non puoi fare considerazioni sulla forma del corpo, non puoi fare considerazioni sul volto. Questo sono d'accordo. Non puoi fare. Ma io lo dico in senso ironico, cioè, invece dovresti farle quante e come ne vuoi. Vabbè, risentiamo Lucci sulla Boschi. Lei accetta la il vero successo. Se sta sudando la guancia. È la nuova bellissima ministra per i rapporti col Parlamento. Oh, Amarie, sei una figa strepitosa. Oggi ammazzate. Dai, oggi ma perché ti hanno messo proprio ai rapporti col Parlamento? Ai rapporti con i membri del Parlamento? Come pensi adesso di cavare? Ah, scusa, c'hai ragione, oggi è una cosa esagerato. Tagliete tacco, tagliete punta, quanto è buona la sovrassunta, tira lo spago e tira la sega, buonasera, buonasera. Ora ditemi voi se uno può essere accusato di sessismo, addirittura qualcuno dice che sono molestie sessuali, eccetera, eccetera. Ditemi voi, ditemelo voi. Nessuno ha mosso un dito, nessuno ha mosso un dito quando lo stesso Lucci è andato dalla Carfagna, è andato da altri, nessuno, solo adesso che tocca la Boschi. Signor Lerner dice aggressione sessista di Enrico Lucci. Femministe varie, varie femministe, molestie sessuali, volgarità. Sono cose patetiche, sono commenti patetici. Ma di che stiamo parlando? Ecco, appunto. Intanto arriva una notizia, caro Parenzo. Formigoni è rinviata a giudizio per corruzione, associazione a delinquere sulla vicenda di Dacco. Sì, no, di bene, scandisci bene i reati contestati. Sto dicendo associazione a delinquere, associazione e corruzione a delinquere e corruzione. Siccome, quando era presidente della regione. Siccome noi siamo super garantisti, sì, con tutti, non ce ne frega niente, però c'è un rinvio a giudizio, dunque. In concreto, il signor Renzi è alleato con Nuovo Centrodestra. Uno dei leader del Nuovo Centrodestra è Formigoni, dunque alleato con uno che è rinviato a giudizio per corruzione e associazione a delinquere. Poi se la veda Renzi con i suoi del Partito Democratico. A noi che ce frega. Vede da vicino quella cosa. Lei accetta la proposta con lo. A proposito, impazza ancora il caso Gentile. Il sottosegretario, questa è una cosa ridicola, sottosegretario nominato da Renzi a insaputa di Renzi, perché il caso era già uscito, dunque le cose sono, le possibilità sono due: o Renzi e i suoi non avevano letto i giornali, oppure si sono fatti passare il nome semplicemente da Alfano senza controllare manco chi era Gentile, cosa aveva fatto, eccetera. Non poteva andare su Google. Non poteva il signor Del Rio o il signor Renzi, che è sempre col telefonino in mano, digitare sul suo telefonino, detto su questo, Google. Detto questo, il signor Gentile, se proprio dobbiamo dirla tutta, dice che non è vero che ha impedito l'uscita del giornale bloccando le rotative. Non lo so se è vero. Intanto lui nega. Secondo, non è indagato di nulla. Allora di cosa lo si accusa? Di questo essere uno che mette insieme 20.000 voti in Calabria? Di essere uno della vecchia politica? No, di essere uno con la faccia sporca? Di essere calabrese? Per la pubblica, per non far pubblicare sul giornale. Lui nega. Notizie. Non ci sono indagini in corso. Non c'è allora nulla. Ci sarebbe un SMS. No, ci sarebbe. C'è, anzi, pardon, non ci sarebbe. Forse. No. C'è un SMS in cui il figlio ringrazia chi? Ringrazia. Ma se non lo sai, non parlare. Come no? C'è un SMS. Vabbè. Intanto ti hanno la Bindi, chiamato, intanto, non rispondi. Vabbè, non ti preoccupare. Intanto la Bindi, se non sai, non parlare. Intanto Andrea Gentile, che è il figlio del senatore, sì, mandò all'editore del direttore di questo Ora Calabria. Ma non ti addentrare, non ma sai. È così la storia, mi dispiace per te? Sì. Mi dispiace per te? Ma è così. La Bindi dice: la telefonata è inquietante, Gentile non può rimanere. In realtà la telefonata è tra lo stampatore e l'editore, uomo di Gentile, molto vicino a Gentile, e l'editore. Ecco. Sì, ma non c'è Gentile, non fa una telefonata, almeno non risulta. Beh, i veri uomini di potere non è che chiamano direttamente. Ho capito, loro. Ma vuoi condannare uno sulla base del nulla? Ma che vuol dire? Per me Gentile. Ma io non voglio condannare nessuno, ma voglio che racconti bene la storia, però. Lei ancora giura. Il senatore Gentile non può restare al suo posto, perché quella telefonata è una telefonata inquietante che apre peraltro una pista di ricerca e di inchiesta molto importante per la Commissione Nazionale, che è l'intreccio tra poteri mafiosi e comunicazione. Non mi molesti moschito, non mi molesti moschito, non mi molesti moschito, why don't you go? Non mi molesti moschito. Amico mio, siamo circondati, ci vogliono in galera, ci vogliono al patibolo solamente perché abbiamo toccato qualcuno che conta questa volta. Quando gli scherzi li facevamo al signor Bossi, quando gli scherzi li facevamo al signor Bini Smaghi, quando li facevamo a protagonisti del centrodestra, nessuno diceva nulla, nessuno diceva niente, anzi paginate, considerazioni sul merito delle telefonate, degli scherzi, nessuno parlava di privacy, nessuno parlava di altre cose, nessuno, nemmeno quelli che adesso, no, si ergono a difensori della privacy. Gli scherzi non si possono fare, non sono giornalismo, sono tutti dei grandissimi ipocriti. E nessuno che ha mai detto nulla sulle telecamere nascoste, no? Tutti a sentire il contenuto di quello che usciva dalle telecamere nascoste, che è esattamente la stessa cosa che ne dica qualcuno, capito? Oh, noi non ce l'abbiamo con Barca, eh. Ma scusami, e quando hanno divulgato il video con protagonista il signor Razzi, ad esempio? Perché, scusa, che ho detto io? Il video, quello erano Che ho detto io? Quello è un discorso. Poi ci sono le telecamere nascoste. Senti Barca, nascoste, senti che Barca sono usate che come metodo di giornalismo, certo, d'inchiesta. Senti Barca sono cosa diverse. Dice. Dopo le polemiche che sono state fatte, fra virgolette, con lei al centro, le richieste di diventare ministro, sottosegretario, ci sono stati nuovi contatti anche, per esempio, per i ruoli di sottosegretari o no? Guardi, solo il nostro paese può costruire un lungo ragionamento sulla base di una trappola scorretta tesa da uno strano giornalismo. La cosa importante è che l'Ordine dei giornalisti del Lazio ha messo quella vicenda sotto la luce, non mi fa piacere, sapremo tutti se quello è il modo o non è il modo di fare giornalismo. Senti cosa dice invece Giovanni Valentini, uno che lavora a Repubblica e che... mi dispiace dirlo, ma il suo giornale più volte ha pubblicato intercettazioni che non si potevano pubblicare e comunque ha guardato, no? Ha guardato dal buco della serratura le vicende soprattutto di Berlusconi, fottendosene spesso della questione della privacy, fottendosene, diciamo la verità. Questo non è uno scherzo. Io penso che si possa definire come pubblicazione illegittima di un'intercettazione illegittima. Eccoci eccoci qui, 800 24 00 24, più battaglieri che mai, e con noi Gabriele Albertini, ben ritrovato alla Zanzara, come sta? Grazie, grazie dell'invito e saluto voi che ci ascolta. Ciao, senta, Gabri, ciao. Allora, caro Albertini, passato di Fresco, lei è passato, lei dirà, io sono sempre rimasto allo stesso posto, lei è passato di un colpo solo in un anno e pochi mesi da Berlusconi, Monti e Alfano. Beh, devo dire chapeau, facciamo un applauso ad Albertini. Applauso, eccoci. Non è esattamente così. Ma come io non sono è così? Rimasto nel mio personale partito. Ah, personale. Non essendo mai stato iscritto a nessun partito nella mia vita, eccetto Forza per Italia. Pochi mesi il PDL, che poi non è più stato un partito e quindi non posso dire, perché si è suddiviso in due tra i fondatori. Però scusi, per Albertini, lei guarda l'esperienza Monti è sciolta civica che mi ha portato. Come a sciolta a civica? Fare, sì, scelta civica è diventata sciolta civica. Ma come? Fino a poco tempo 10 e 7 siamo passati alla somma di scelta civica che viene dato all'1,8 dell'UDC che comprende diciamo quella appendice non quantificabile dei popolari di cui facevo parte anch'io, che fa capo a Mario Mauro, all'1,5 totale 3,3 si è sciolto il 70% dei consensi, quindi vabbè, uno è abbandona, abbandona la nave quantitativo, è... come Schettino, lei è come Schettino che, no. Ma adesso mi lasci finire il pensiero, il mio modesto pensiero, no, visto che mi fa una domanda, mi lasci concludere. Ma io non ho fatto nemmeno la domanda, critica, io ho detto, critica. No, ma non è la critica, io ho detto poi semplicemente che critica. Lei ho detto che è passato da Berlusconi come leader PDL, poi Monti con quella che lei stesso... Allora possiamo dire che mi sono ritrovato con i miei assessori del 97? Ah, dove? Ecco, allora CD. Se vuole partire ancora più indietro, più coerente di così, cioè, si è ritrovato... erano i miei due assessori, uno è ministro e l'altro vice ministro, e siamo insieme. E poi mi permetta, un anno fa il nuovo centrodestra, che adesso è quello che fa capo Alfano, si stava costituendo e costruendo in Lombardia con la mia candidatura alle regionali. No, però, poi scusa, Berlusconi scelse Maroni, si operò la rottura tra Formigoni e i suoi e chi invece è rimasto. Ma ho capito, io sono diventato Albertini, è un dato di fatto, candidato di scelta civica con alcune eccezioni. Però scusi Albertini, adesso che avete fatto voi alla Buitoni Borletti. Ma certo, scusi Albertini, però allora, non se la prenda, non dite a me che sono incoerente. Ma io non ho detto che lei è incoerente, io ho detto che lei in un anno e due mesi, in un anno e tre mesi non ho cambiato nessun partito, sono rimasto nel mio partito. Ma il suo personale partito. Sono le sigle che sono le sigle che sono il catalogo di offerta politica a cui ho aderito pensando di avere contiguità col mio modesto pensiero. Però no, ma certo, però voglio dire, lei era prima con Berlusconi, poi legittimamente è una visione del tutto superficiale e incoerente. Vabbè, d'accordo, io rilevo che lei era, ripeto, il nuovo centrodestra era in costruzione con la candidatura alle regionali, ma perché? E che prevedeva che la Lega avesse il suo candidato e che il resto stesse insieme, quello che lei noi proviamo a fare adesso. Lei con la deriva demagogica di Forza Italia ex PDL ha portato a questa rottura. Allora, prima alle regionali e ora un anno dopo alle politiche. Albertini, allora lei con Formigoni se ne è data di santa ragione. Io ricordo che a un certo punto disse: non mi inquieti perché c'è un sacco, potrei dire, rivelare un sacco di cose. Adesso invece sembra andare d'amore e d'accordo. Con Formigoni fino a quando lui è rimasto fedele al nostro obiettivo, al nostro programma. Ci ha litigato, adesso ha fatto quando pace di nuovo. Poi si è separato, accade normalmente, voi ne siete protagonisti, fate anche di peggio. Ma figuriamoci, fate delle polemiche ancora più aggressive di quelle che possono fare le persone che hanno ruoli nelle istituzioni, e ho avuto una dialettica anche con lui, certo, ma questo non significa che non abbia riconsiderato. Siccome lei è uno di quelli, di un anno, le stesse idee, gli stessi obiettivi di allora come contigui e come anzi sovrapponibili. Va bene, senta, fatto sta che oggi è stato rinviato a giudizio, lei siccome è stato molto attento a questi temi della legalità, è stato rinviato a giudizio signor Formigoni, suo nuovo alleato, che prendo adesso, non l'ho seguito. È stato rinviato a giudizio per la vicenda della Maugeri, per associazione delinquere e corruzione a processo, è rinviato a giudizio, stiamo dicendo. Io mi ricordo che lei era molto attento a queste cose. Cosa deve fare Formigoni? Di mettersi da senatore, secondo lei? No, intanto è un rinvio a giudizio e non è un giudizio. Beh, su questo non c'è dubbio, però lei è sempre stata molto attenta a queste questioni qui, Albertini. Quando ero sindaco, l'ho anche spiegato quando ho fatto l'intervento. Sì, ma rinvia a giudizio adesso, che deve fare? Formigoni, io che deve non fare? Io nominavo le persone che avevano carichi pendenti, non solo che fossero rinviate a giudizio. Vabbè, può restare a fare il senatore, tranquillamente. È una cosa diversa, la nomina sindacale che facevo io e le elezioni. No, ma non c'entra niente, io sto dicendo, lei più volte ha detto che la legalità, le cose... Io rispetto la Costituzione, proprio perché è una cosa seria, la legge, la giustizia e la Costituzione, esiste un principio secondo il quale l'accusa è l'accusa, il giudizio è un'altra cosa e ci sono tre gradi di giudizio. Prima di essere condannati definitivamente, questo lo sappiamo. Ci sono delle ma lo dimenticate spesso. No, ma c'è la politica anche. C'è la politica. Lei spesso ha detto: beh, non basta solamente la cosa. Politicamente uno dovrebbe capire che cosa fare di fronte al rinvio a giudizio. Comunque abbiamo il traffico e torniamo subito. Monellacci. La Zanzara. Maschietto. È ancora a casa. Devo segnalare, caro Parenzo, anche una cosa che ha scritto Michele Serra su Repubblica l'altro giorno, credo ieri o oggi, non mi ricordo. Le discussioni private non sono e non possono diventare oggetto di discussione pubblica. Dice Barca in merito all'intercettazione trappola attesagli qualche giorno fa da un varietà radiofonico, così ci definisce. Beh, pensando di offenderci, ma in realtà ne siamo assolutamente orgogliosi. Non è un'offesa varietà. Ha ragione, dice Serra, lui dice che ha ragione, capito? Il problema è che scrive su un giornale che ha utilizzato gli stessi metodi, spesso peggio, a piene mani. Questo è il punto. Dunque, se si svegliava prima era meglio, eh? Molto meglio se si svegliava prima. Adesso mi sono rotto le scatole di subire queste cose ridicole da personaggi che sono contraddittori al 100%. La Zanzara con noi, nuovo senatore del nuovo centrodestra. Gabriele. Posso fare un commento su quello che avete appena detto? Sì, come no? Allora, sulla vicenda Barca sono assolutamente d'accordo con le vostre proteste e le polemiche contrastanti con la vostra linea. È vero che avete fatto una maramaldeggiata, perché è un po' nel vostro stile di Monellacci, come vi ho definito. In effetti avete imbrogliato una persona che credeva di parlare con un'altra, ha fatto una confidenza che avrebbe fatto solo a quella persona, è finita nell'etere, è venuta una polemica. Però non credo che voi abbiate commesso un reato, mentre divulgare intercettazioni che fanno parte di atti di indagini, di istruttorie, di processi in corso che addirittura non sono ancora arrivate all'avviso di garanzia, sono dei reati. E quindi anche se sono sanzionati poco, in realtà lo scandalo dovrebbe emergere non tanto sugli scherzi telefonici che producono degli effetti politici, ma sulla lesione della legge che viene fatta evidentemente non solo da chi pubblica o diffonde, ma anche da chi divulga segreti. Senta Albertini, però Gentile, il problema qual è che riguarda il senatore Gentile, sottosegretario? Innanzitutto lei lo conosce perché è suo collega al Senato, in questo anno l'ha conosciuto oppure no? Ho visto la sua foto sul giornale e a questo punto ma come no, è suo collega da un anno. Di avere già visto la sua faccia, perché è un senatore, quindi questo l'ho già visto, però non gli ho mai stretto la mano, non perché abbia qualcosa contro di lui, perché non lo conosco personalmente. Ma è una cosa che la imbarazza un po', lei è appena entrato nel nuovo centrodestra e nel sud è scoppiato un casino, prima Gentile e adesso Formigoni. Dunque, ripeto, cosa che mi imbarazza è che questo argomento del reato che stava per essere commesso con la divulgazione di un atto istruttorio che doveva restare segreto, perché non mi risulta che il figlio di Gentile abbia ricevuto un avviso di garanzia, quindi vuol dire che le indagini erano ancora coperte dal segreto istruttorio. Ma Renzi che deve fare secondo lei? Se rimuove sarebbe stato avvisato la persona indagata. Questo l'ho capito e l'ho già sentito. Questo è lo scandalo e parliamo di questo. Però scusi Albertini, se Renzi lo rimuove che succede? È gravissimo, salta tutto? Non inseguo questo argomento del fa bene fa male, io dico soltanto che dobbiamo concentrarci. No, ma questo d'accordo, l'ho capito. Siete persone corrette. Sul reato che stava per essere commesso, Gentile se ha fatto quell'esortazione al direttore del giornale a non pubblicare una notizia qualcuno per conto suo ha cercato di fare qualcosa che poteva essere utile alla sua reputazione, d'accordo, ma era un atto necessario e dovuto perché la legge addirittura lo prescrive. Cioè ha fatto bene a intervenire per non far pubblicare la notizia. Esiste o non esiste? È una garanzia per l'accusa che deve fare le indagini. Ho capito, poi il giornale il giornale decide, sia avvisato delle indagini, e per la difesa, quando è il momento della difesa, perché possa difendersi da accuse circostanziali. Se Gentile è intervenuto, se uno lo dice prima, se Gentile, è una legione dei diritti. Se Gentile è intervenuto, ha fatto bene, dice lei. Se le indagini erano in corso, ha fatto un atto dovuto, ha fatto che avrebbe bene. Dovuto fare un PM, piuttosto bene, che lo stesso. Ha fatto che lo, bene. Che lo stesso ha fatto questa bene. È una tesi interessante. Ha fatto no? bene a proteggere la legge. Ma mi scusi, Caselli, no, ma ho capito benissimo. Procuratore generale, no, mi lasci finire, perché su questa morta. Bertini, io voglio capire una cosa. Secondo lei, Renzi, se lo è difficile andare a nuotare contro. No, ma lei ha spiegato benissimo. Se Renzi lo dovesse. Caselli ha aperto un fascicolo dopo che dalla sua procura Torino erano uscite le intercettazioni che riguardavano la Cancellieri nelle sue telefonate con indagati o persone collegate con le indagini sugli Gresti, perché è un reato. Questo è il punto. Quindi parliamo di un reato che stava per essere commesso dal direttore dell'ora della Calabria. Ok, benissimo. Allora voglio capire una cosa. Io mi fermo a questo. Se Renzi lo rimuove, che cos'è? Una cosa gravissima, molto grave? Se lo rimuove per questo. Se lo rimuove saranno fatti suoi. Beh, cioè, come saranno fatti? Lei è alleato di Renzi, lei è alleato di Renzi, lo ricordo. Renzi può prendere le decisioni che vuole. Poi, chiaramente, una volta che prende le decisioni, può aspettarsi che altri che sono suoi alleati facciano delle considerazioni sulle sue scelte. Senta, a proposito, ma l'imperatore, come lo vede in questo periodo? Il grande imperatore di no? Lei lo definì così una volta, Albertini. Se lo ricorda l'imperatore oppure l'ha già dimenticato l'imperatore? Ma parla di Berlusconi? Eh beh, sì. Certo, lei lo definì l'imperatore. Beh sì, anche l'imperatore, anche Zeus. Zeus. volendo essere... Ecco, Toti una volta pure lei definì Alfano un delfino, com'è che lo definì? Nominato solo dall'imperatore. Adesso sarà un po' cresciuto, no? Adesso ha il quid o no Alfano, secondo lei? L'ha dimostrato nel momento in cui ha fatto una distinzione tra fedeltà e lealtà. La cioè fedeltà... ha le palle adesso? Si può dire che ha un po' di palle? Ma guardi, queste sono espressioni che lascio usare a lei. Io non posso dire che ha un carattere, che ha una dirittura morale, che è una persona leale piuttosto che fedele. E Toti è un nominato? Ha dovuto scegliere tra la lealtà verso le istituzioni e la fedeltà verso una persona amica che comunque conserva la sua stima, ha fatto la scelta giusta. E Toti è un nominato? Beh, Toti è stato nominato, no? Non è nominato. Che lo dico io, è nominato, non credo che sia stato votato da qualche assemblea o da qualche Organo collegiale. Quanta autonomia ha? Zero, secondo lei? Ma l'autonomia che saprà però concretamente con la sua professionalità e concretamente nel modo in cui lo vorrà realizzare questo suo ruolo. Concretamente pochissima. Ma questo lo vedremo all'opera, adesso io non posso dirlo senza in genere stanno un po', come dire, per il momento era un ottimo direttore del suo telegiornale, mi pare che non avesse fatto, diciamo, decremento di audience e di quant'altro, di successi, diciamo, editoriali rispetto a Fede. Senta, no? Ma questa sigla, lo sapeva fare. Questa sigla, lei è attenta a queste cose, questa sigla NCD, Nuovo Centrodestra, è orrenda, diciamo la verità, dia un consiglio ai suoi dirigenti, ai capi. Sembra che sia piaciuta molto. NCD, ma sembra... è piaciuto il caratterizzarla come centrodestra. Ma è il noleggio con conducente. Qualcosa di opinabile, è centrodestra. Ma sembra una sigla di quelli dei noleggiatori di auto, Albertini, dai su. Beh, a me non dispiace. A lei non dispiace? No, a me piace come simbolo, no, sinceramente, al di là del fatto che vi ho aderito per altri motivi, non c'è se mettete... per l'estetica del film. Ma l'avvocato se cosa, dire, un cosa, di telefono cosa direbbe sotto. L'avvocato di Alfano, dall'aldilà, l'avvocato di Alfano cosa penserebbe? Credo che Alfano abbia dimostrato di essere una persona competente e capace, fin da quando è stato coinvolto negli affari dell'imperatore, ha saputo gestirli con sagacia e con un senso dell'opportunità particolare. Quando questi sono entrati in contrasto con l'impero e con la gloria di Roma, si è dissociato. Grazie, a presto! La saluto, arrivederci! Oh, Amarie, sei una figa strepitosa! La Zanzara. Fate schifo. Sì, lasciatevelo dire. Quanto siete stupidi. Siete proprio insopportabili. Venuta nel mio spazio sotto salice, non stare lì così, mettiti comoda, sull'erba butto spesso qui si corica, non voglio farti fretta ma troppo inizia la festa. civile e la guidi, perché immagino che l'abbia scelta lui. Allora aspetta, ma quando Alfano ti dà i nomi, facendo, Alfano è una merda seatino per passarmi i Bennarelli. No, ti dà i nomi, ti dà i Bennarelli e basta. Fiffino con i nomi. Chi è che può reagire adesso? Sono tutti dei minorati mentali. Beh, però non possono. Alfano è un caccatore, ha paura, però non può fare niente, lei fermo. Però posso dirti una cosa, Alfano ha garantito dentro il governo il posto ai suoi. Ai suoi. Quello è uno sfregio mafioso, tipico. Vabbè, adesso senza andare. Metto lì quelli che c'era prima. Sull'erba butto spesso il psicorico, non voglio farti fretta, ma troppo iniziale. Quella è corruzione. Quella è corruzione. Non è possibile che un Presidente del Consiglio non possa fare un governo di livello con persone di qualità. No, la corrente, la sottocorrente di Alfano, Alfano che mette dentro questo... Ma che roba è? Allora... Cioè tu non devi ascoltare i nomi di Alfano, devi dire voi. Quindi che voto dai uno al, al governo Renzi come compagine? Va incriminato per corruzione. Ok, però... D'altro che un magistrato lavori, lavori... Quindi che voto gli dai? Zero, che gli devi dare? Sarà un governo del cazzo... La gaffe del Papa, la gaffe del Papa su una parola che ogni tanto, non sempre come dicono, ogni tanto si utilizza anche qui perché fa ormai parte del gergo, fa ormai parte della discussione pubblica. È inutile che noi ben pensanti si stupiscano. Anche il Papa la usa, però ovviamente non è vero perché ha fatto una gaffa. No, Ha fatto una gaffa, vabbè, però fa il giro del mondo. Una gaffa, eh. L'ha detta per sbaglio. L'ha detta per sbaglio perché voleva dire caso. Non caso. È la sua lingua l'italiano. Caso. Che ognuno di noi non accumula ricchezze soltanto per sé, ma le mette al servizio degli altri. In questo caso la provvidenza di Dio si rende visibile in quanto gesto di solidarietà. Beh, dai, dai, risentiamola, perché è bellissimo il passaggio, perché la dice proprio in maniera chiara. Però poi si rende conto. Ma certo che si rende conto. Sai come dicono i latini? Come dicono? Omnia munda mundis. Tutto è puro per i puri. Mamma mia. Dai, scusatemi, metti un altro po' di parolacce, così. Cari amici camionisti, cari amici tassisti, mi dovete perdonare. Sei così razzista? Sai che sei proprio un razzista? Te lo volevo dire da tempo. Questa idea per cui i camionisti e i tassisti non sanno il latino. Sì, è vero, hai ragione. O non possono apprezzare. Sei un razzista. È vero, su questo sei hai ragione. Sei ricco, perché sei anche molto ricco. Razzista, perché pensi che il tassista non sappia il latino. Cornuto, razzista, razzista. Hai ragione. Razzista, questo... razzista, però, razzista, razzista. Non esagerare. Sì, lo paghiamo anche troppo. Razzista però, sei. Però omnia munda mundis, lo sanno i tassisti. Lo hai sanno. Ragione, basta però, fermati. Razzista. Ti ho dato ragione. Noi chiamate tassisti, chiamate, sbeffeggiatelo, parlate non in latino. Il cretino, ecco. Non il risentiamo il Papa. Dopo risentiamo il Papa. Che ognuno di noi non accumula ricchezze soltanto per sé, ma le mette al servizio degli altri. In questo caso le provvidenze. Me la volete isolare per favore? Perché dice proprio cazzo in questo cazzo. Come ti può uscire? Scusa, cazzo. Era scritta male. Cioè, la questione è che secondo me era scritta male sul foglio. Cioè, per forza era scritta male sul foglio perché non ti può uscire, dai. Caso trasformare in un cazzo pronunciato in maniera così precisa, no? Comunque, sentiamo i titoli del TG3, dai. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. Cosa deve dire? In Crimea, giallo su un ultimatum del nuovo governo ai militari ucraini. Insorge tutto l'est, la minoranza russa vuole l'indipendenza da Kiev. Gli Stati Uniti minacciano sanzioni, l'Europa chiede alla Russia di fermarsi. Palazzo Chigi, l'Italia in linea con gli alleati. Da domani la Camera vota sulla legge elettorale, spunta un nuovo emendamento, l'Italicum solo a Montecitorio, sì del nuovo centrodestra, Forza Italia sulle barricate. Il 2013 si conferma l'anno più nero della crisi, debito record, consumi in caduta e valore dell'economia tornato ai livelli del 2000. Sanità Lombarda, rinvio a giudizio per l'ex presidente della regione Formigoni per il caso Maugeri, l'accusa è corruzione e associazione a delinquere. Nuovi crolli a Pompei, la pioggia sta causando gravissimi danni. I 105 milioni stanziati dall'Europa non sono stati ancora spesi. Monito dall'UNESCO, non c'è tempo da perdere. E dopo 15 anni l'Italia vince l'Oscar per il miglior film straniero e La grande bellezza di Paolo Sorrentino. A proposito di grande bellezza, vogliamo ricordare qualcosa? Innanzitutto, sei felice tu per l'inglese? Questa... Non me ne frega assolutamente nulla. L'inglese. Ma c'è una cosa che ti interessa? Non mi interessa, no? Perché devo essere entusiasta per la grande bellezza dell'Oscar? No, non sono entusiasta. Non ti riempie di orgoglio il fatto che l'Italia abbia vinto? No. A te sì, a me no. Ma potrò essere, decidere cosa mi riempie d'orgoglio o no? Sì, infatti, a me il film è piaciuto abbastanza. Sono felice che l'Italia sia stata. Sei felice per l'Italia, è una cosa banale. No? Tu no. Sorrentino e il suo inglese, sentiamolo, applicato a Maradona, perché lui dice la grande ispirazione è Maradona. Maradona, ma non in senso positivo, Maradona, diceva. Come no? Maradona mi ha ispirato, tra gli ispiratori sì, c'è stato come Maradona. Valore, non è perché è una persona di. Beh, mi sembra. Vorrei dire a Sorrentino, forse gliela mandiamo a lui la cartella esattoriale di Maradona? La mandiamo a lui la cartella esattoriale di Maradona? Thank you to my sources of inspiration, Federico Fellini, Talking Heads, Marty Scorsese and Diego Armando Maradona. Fonte di ispirazione, Diego Armando Maradona. Sull'inglese sorvoliamo, Però non si può fare un torto da questo punto di vista. Sorrentino non è che è un uomo pubblico, no? Non è che è come Pittella al Parlamento Europeo che l'inglese dovrebbe saperlo. Ma noi ricordiamo Servillo soprattutto, oltre che per le sue magnifiche interpretazioni, ma questo lo dicono tutti, anche per il meraviglioso vaffanculo detto alla giornalista di Rai News 24. Non sento più, guardi, sto entrando in un pronto, sto entrando in un tunnel, pronto? Noi la pronto? Sentiamo. Ci sente? No. Grazie, vaffanculo. Ah, gratis. Si voleva sapere perché. Ci sente? Sì, trattati così. Va bene, la ringraziamo. Grazie a Tony Servillo. Non riusciamo più a sentirla. Quindi vai a cercarne un altro. Ma che mondo. Siamo qui con Lores Vicenza. Lores, buonasera Lores. Claudio. Lores. Buonasera. Mi dica se è Lores. Allora. Sì, ma alzi la voce perché sennò non si sente niente. La settimana scorsa, parlando dell'indipendente del Veneto, ancora, voi, presuntuosi ignoranti, parlate sempre senza sapere niente, certo, almeno di questo caso. Alzi la voce però, alzi la voce. Allora, dopo magari mi viene, dopo. Quando quel moscerino l'apre la bocca... mi verrà da gridare, però parli in maniera un po' più, perché altrimenti si capisce poco. Avanti. Allora il Veneto vuole ottenere l'indipendenza legale democratica. Va bene, d'accordo, abbiamo capito. Perché si può certo. Per cortesia. No, non le lascio spiegare. Lei ha detto io sono la Lores, la Lores che spiega l'indipendenza del Veneto. Questo no. Questo lo consentiamo soltanto a dei tecnici, francamente, e neanche a loro. Quindi non sarà una Lores qualunque a spiegarci le ragioni tecniche dell'indipendenza del Veneto. Lo facciamo spiegare a Del Rio, lo facciamo spiegare a dei costituzionalisti magari. Ma allora Lores? No. Avanti Lores, dopo? Allora, lo Stato italiano sottoscrive il diritto all'indipendenza. No, questo del no, però abbia pazienza, non la posso sopportare questa roba qua. No, il modo tecnico in cui secondo lei il Veneto allora, può vuole sapere un'altra cosa? Mi dica un'altra allora, cosa. Allora glielo dico pari perché noi veneti vogliamo l'indipendenza. Sì, voi veneti. E la dobbiamo avere. È l'interprete perché dell'indipendenza dei veneti. Le pensioni di invalidità in Italia su ogni 1000 abitanti, in Veneto ne ha 47, la Calabria 96. Vabbè, quello perché sì. I lavoratori regolari sul totale nel Veneto sono 8,4, l'Italia... Lores, in questo momento non è un argomento in discussione l'indipendenza del Veneto, ha capito? No, allora di cosa vogliamo parlare? E che ne so, lei che ha chiamato, mica io. No, avete chiamato voi. No, ma è lei che ha chiamato prima, poi noi abbiamo richiamato. No. Li avete chiamato voi. Vabbè, d'accordo, lei è andato, ha preso un po' di sostanze, va bene. Lores, vada. No, guardi che io sostanze non le uso proprio. Va bene, d'accordo. Non mai il suo Pippa lì vicino che usa. Dopo l'indipendenza del Veneto, di che vogliamo parlare? Di cosa vogliamo parlare? Che ne vogliamo parlare di questo governo di merda? Vabbè, d'accordo. Andiamo a Martina, provincia di Pavia. Sì, buonasera Cruciani. Io volevo riferirmi alla, a Lucci e all'episodio con la ministra Boschi. Io penso che in un paese normale una cosa del genere non, non sia accettabile, perché se la ministra fosse stata un ministro, questi apprezzamenti, comunque l'atteggiamento sessista che Lucci ha avuto nei suoi confronti non ci sarebbe ma stato. Ma quale atteggiamento sessista? Non ha fatto nulla, non ha fatto niente. Non è vero che non ha fatto niente. Ha fatto quello che fa sempre Lucci, ha fatto quello vabbè, che ha fa sempre. Pirla. Lucci è un pirla. E vabbè, dire, ma lei non piace, spegni la televisione e non rompe le scatole, qual è il problema? Ma infatti io non l'ho visto, ma poi ovviamente le notizie si sanno, si viene a sapere, si apre una discussione. Allora io credo che noi abbiamo la responsabilità, soprattutto voi che fate radio, raggiungete tantissime persone, in un paese dove il ruolo della donna o comunque le donne... Senta, sono, è una trasmissione televisiva, i servizi di Lucci sono spesso gli stessi servizi, con inseguimento di persone e con domande irriverenti, provocatorie a quelle stesse persone, e spesso, ripeto io, hanno come tema centrale il sesso. Questo qua succede da 20 anni con la Boschi, con la Carfagna, con solo che quando si tratta di altri nessuno apre bocca. Con la Boschi adesso tutti a protestare. Non vi abbandonerò mai. La Zanzara. In questo caso le provvidenze di Dio si rende visibile. Ti ho dato Gesù Cristo, sempre. Non ci importa se il tuo sangue è rosso blu, dolce amaro nota blu. La difesa di Gentile, il sottosegretario alle infrastrutture, senatore di NCD, che dice: io per carità non ho fatto nessuna pressione, è un complotto contro di me, la macchina del fango. Perché noi siamo zanzare. Si è mosso tutta una macchina contro di me per cercare, ecco, di colpirmi. Le zanzare fanno male, ma lo fanno per amore. Se le iene portan bene. Anna Maria, provincia di Milano. Buonasera Cruciani. Buonasera, dica. No, le volevo solo ricordare, Cruciani, sì, che anche il suo direttore Roberto, sì, Napolitano, sì, ha firmato perché Gentile desse le dimissioni. E dunque? No, niente, visto che lei usa sempre quei toni un po' non capito, devo per forza irritanti. Devo per forza essere d'accordo con quello, no, che non dice Napolitano. Non essere d'accordo, perché però ti sei da, senta anche il mio, cioè io le ho ricordato semplicemente un fatto, punto. Ma allora, ma che cosa mi vuole ricordare con questa roba qua? Scusi. Ma senta, ma lei dice tante di quelle stupidaggini, ma io posso farle un'osservazione? No, ma è un'osservazione così, vuol dire, lei mi sta ricordando Gentile, questa roba qua. No, probabilmente lei non lo sapeva neanche, perché visto no, considerato ha che scritto, non sa parecchie cose. Guardi, adesso è per sorvolare. Guardi, Anna Maria, Anna Maria, ecco, guardi, sì, non è un problema questo, sì, qua. Lei può dire, certo che non è un problema, lei può dire quello che vuole. Ha fatto un'intervista, è un parere raccolto anche dal Fatto Quotidiano nei, sì, giorni scorsi, in cui ha detto di essere per le dimissioni immediate di Gentile. Ha capito? Dunque, ho letto benissimo quello che ha detto. Io, bene, siccome non ne ha io tanto, sono pensavo non totalmente lo indifferente a questa cosa qua, ho di Gentile, perché è stato indifferente a tutto quello. No, ma lo sa perché grada, che non è consono al suo pensiero, lei indifferente. No, tutt'altro, infatti. Comunque, la sto ascoltando tranquillamente. Lei mi però dice, al di là di questo, Anna Maria ha ragione su una cosa. Su che cosa? No, cioè non l'ha detto, ma immagino che ma lo che pensi. Ma che cosa? Però. Ragione su che? Non ho che capito. Sulla vicenda. No, non dice niente, ha ricordato una cosa, punto, sì, e basta. Ma sulla vicenda di del senatore Gentile. Ma per me Gentile può andare anche a quel paese, ecco. Non no, è questo il punto. Non me ne frega niente di Gentile. C'è da dire che. Che cosa? Renzi ha rinunciato al signor Gratteri, al magistrato Gratteri, allora? No? E si è ritrovato Gentile. Dunque? Lo stesso Gratteri che voleva indagare Gentile. Vabbè, voleva indagare, fuori, ha già indagato. Fuori dal governo. Vabbè, allora? Al governo il signor Gentile. Bene. il cui il quale non ha nessuna indagine in corso, chiacchierato per una vicenda. Dunque, non solo per te va cacciato. Dillo, per te va cacciato. Per me dovrebbe dimettersi da solo. Cioè, benissimo, questo è fuori di dubbio. Benissimo. Ecco, detto qua, fin dall'inizio, la linea di Parenzo. Benissimo. Danzano come zanzare. Comunque il problema è di Renzi, mica ho nominato io, gentile. Certo, cioè, che è di Renzi, se l'è fatto imporre, se l'è fatto imporre da Alfano, sono affari suoi. Dopodiché è un governo di coalizione, quindi Alfano fa benissimo. Ma abbiamo con noi un uomo attaccato perché dicono che ha fatto assalti sessisti, perché dicono che ha molestato, secondo la signora Terragni, scrittrice, giornalista, addirittura dovrebbe andare forse sotto processo per molestie sessuali nei confronti del ministro Boschi. Enrico Lucci, buonasera. Buonasera. Caro Enrico, come stai? Bene. Non te ne frega niente di queste cose, immagino, no? Di queste critiche che hai ricevuto. Sei preoccupato? Forse manco le conosci, manco le sai, o no? No, non è che non me ne frega, mi interessa tutto, quindi anche perché poi ognuno è libero di dire quello che meglio crede, però mi sembrano un po' così, che arrivano un po' senza un grande senso, nel senso che ho fatto quel servizio, cioè, sì. Forse bisogna fare un po' una premessa. Allora, primo, noi siamo un programma satirico, certo. E questo non significa che facciamo ridere tutti, magari a molti facciamo schifo ed è legittimo che sia. Basta così. Cambiare canale, insomma. Esatto. Poi, cioè, ho fatto un servizio in cui c'era un atteggiamento volutamente esasperato sugli stereotipi del luogo comune. Cioè, era esattamente questo, era un servizio patetico, grottesco, scemo, come molti ne facciamo alle Iene. Cioè, era un servizio in cui fingo il becero, il peggior becerume che possa esserci, ed era tutto palese. Cioè, mi rivolgo alle donne, agli uomini, dico scemenze vere al ministro maschio, al ministro femmina, vado da Pannella che parla del mio culo sporco, poi mi rivolgo al ministro, gli dico della forfora, quell'altro se mi aggiusta la lavatrice. Cioè, è tutto un grottesco. Servizio totalmente grottesco. E scemo. Sì, d'accordo, certo, però l'accusa che ti fanno, quindi, Enrico, è quello di utilizzare, poi te la fanno in questo caso, in realtà tu il sesso, le parole che riguardano il sesso le utilizzi sempre, con la Marini. Ma non sempre, cioè talvolta quando faccio i servizi scemi, sì, utilizzo un linguaggio idiota, che è davvero idiota, già è palesemente idiota. Una cosa è quando uno in un contesto serio e normale utilizza delle frasi sessiste, un'altra cosa è quando utilizza delle frasi sceme, sì, a destra e a sinistra, che riepilogano un po' il luogo comune più stereotipato che si possa utilizzare. Vabbè, però la gente, ma non quello è che era, sì, quello ho capito. È quello in un programma così, certo, se sto al TG1 non utilizzo ovviamente quel linguaggio. No, ma su questo non c'è dubbio. È palesemente così grottesco, scemo. Sì, è d'accordo, ovvio, però che non ci si rivolge così a una donna, a un uomo, vedi, a nessuno, è ovvio. Però la cosa drammatica è che si faccia un convegno sul maschilismo e sul femminismo, sì, partendo da un servizio palesemente e volutamente idiota. Sì, ma al di là di quello che tu vuoi comunicare col servizio, resta che cosa? Restano alcune parole e alcune frasi rivolte al ministro Boschi. È su questo che si concentrano le cose, perché qualcuno ti accusa di sessismo semplicemente perché tu hai fatto un paragone tra i rapporti col Parlamento, i membri, ma sei una strafiga. È uno stereotipo totalmente scemo, sono battute stupide, sentite, trite e ritrite, utilizzate in quel contesto proprio per far vedere, all'interno di un servizio che riassume i peggiori stereotipi, cioè, ma volutamente, cioè, l'effetto che si voleva creare era il contrario, perché è talmente evidente che è, che so, frasi sceme, sì, dette da uno che sta facendo l'idiota che ironizza sulla sua vecchiaia, cioè io, sì. Che prega uno della Digos di farmi entrare perché gli potrei essere padre. È tutto scemo quel servizio. Pannella che mi dice del culo. Cioè, è tutto. Però scusami, Enrico, a te fare le battute, le domande sceme su sei una strafiga. In quel contesto, ovviamente. Ovviamente se intervisto Margherita Hack, che è il mio mito, o Rita Levi-Montalcini, uso altri cioè faccio altre cose, capito? Siamo in un contesto così, tanto è vero che le ministre sono state lì, hanno abbozzato un sorriso come per dire guarda sti idiota, e giustamente se ne sono andate, cioè punto e basta. Poi qualcuno potrebbe dire perché non cambi registro e invece di fare battute sul sesso, sulle forme della Boschi, fai altre cose? Ma perché in un servizio idiota faccio questo, quando alla Boschi gli chiederò cosa ha fatto nel governo e fra 4 anni vedremo i risultati della bravura della Boschi o della Madia o di tutti gli altri, maschi, femmine e di ogni altra natura, e gli farò domande sulla sua azione politica. Nel frattempo ho fatto un servizio idiota e scemo sulla bellezza della Boschi, che è stato uno degli argomenti di cui si è parlato negli ultimi 3 mesi, diciamo la verità. Poi certo, perché è meravigliosa, è una donna bellissima. Adesso non si può dire manco che una è bellissima, ma cioè, è veramente figa, tu la consideri? La Boschi è bellissima, addirittura bellissima. E non pensavo poi così da vicino che fosse così, ma poi punto e basta, battute. Erano battute volutamente idiote, sceme. Allora, la Terragni ha detto un'altra cosa: Maria Elena Boschi viene intimidita, ricondotta alla sua funzione di oggetto sessuale, quindi indebolita nella sua soggettività proprio nel giorno in cui è chiamata a giurare per un alto incarico istituzionale. Questo comportamento meriterebbe una sanzione per Maria Elena e per il bene di tutte. Hai capito? La sanzione, vogliono la sanzione, Henry, la sanzione, e dai, su. Uno deve dire che queste qua sono delle puttanate inaudite. Tu hai fatto, Lucci, quello che fai da 10 anni, adesso io, per carità. No, però lui dice che... 17, quello che è. Dai. Lui dice che quelle cose non le pensa. Che questo può pure piacere o non piacere, nel senso che ogni persona ha il diritto pure di essere infastidito, di essere infastidito. Di essere infastidito, e in tal caso, se c'è qualcuno che si è sentito infastidito da tutto questo, non ho problema alcuno a chiedere scusa. No, scusa, ma bravo mai, Lucci, scusa, bravo, mai scusa. Bravo, ogni tanto va fatto. Attenzione, non è che chiedo scusa per il servizio, non c'ho nulla da scusarmi. Chiedo scusa se su quel servizio qualcuno si è sentito ferito, non c'è niente di male. Ma la Boschi era irritata, mi pare che la Boschi era un po' irritata, ma comunque era un servizio che c'aveva la sua, cioè è un servizio volutamente scemo, stupido, idiota, e quello lì era punto e basta, non è che è una cosa. Però se su quella cosa qualcuno si è sentito ferito, in democrazia ognuno ha i suoi sentimenti e la sua sensibilità. Ok, tu devi rispondere, io faccio le stesse cose con tutti, ma perché non te l'hanno detto sì, con la Carfagna, con cui quando vai a prendere per il culo quelle di centrodestra? No, che ne so, non lo so. Perché Lerner non ha detto aggressione sessista di Enrico Lucci delle Iene, come ha scritto quando l'hai fatto agli altri? Lo so io. Perché quelle lì non lo so. E poi si è fatto così, però insomma... creare tutto un convegno su maschilismo, sessismo, oltretutto in tutti i miei servizi, ne ho fatti più di 800, è ben chiaro come la penso in merito a tutto quanto. Sei un po' fissato col sesso, bisogna dire la verità. Ma guarda che... E peraltro c'è pure questa cosa qua che fa parte, se vai al bar dello sport si parla pure delle zozzerie, si parla con linguaggio orribile. Ma tu pure sei un po' fissato col sesso, diciamo. Ma chi non lo è, dai. A me lo dici. A chi non lo è. È Parenzo che è malato, che è il contrario. Cioè... Sì, per adesso non diciamo cose brutte. Dai. No, che cose brutte. Bravo, io ho detto semplicemente. Ognuno segue ogni tanto le sue perversioni, le sue fissazioni quando lavora. Ogni diciamo tanto, la verità. Sempre. No, io ho detto ogni tanto così per edulcorare. Siamo perversi, siamo tutti malati, abbiamo tutti un sacco di scemenze nel cervello. Per cui eccoci lì. E ognuno. Poi, ogni tanto escono pure scemenze così, ma. Però scusami Enrico, la verità è che tu hai la fortuna di seguire, facendo i servizi, di seguire un po' anche i tuoi tic, le tue fissazioni. A me per fortuna, guarda. Pensa se dovessi fare una cosa recitando, no? Cioè recitando. No, ma io, cioè, adesso non è per giustificarmi, ma bene o male so un cazzaro totale durante tutta la mia giornata. Poi, ma non ce l'hai una fidanzata adesso? Non hai messa la testa a posto? Ma no? non apriamo questo discorso, guarda. Non riesci a mettere la testa a posto? Un figlio, una famiglia. Quanti anni hai? Un figlio. Vabbè, ma piano piano, non mi sento pronto. Piano, ma quanti anni hai? Ma scusa, c'hai 50 Luce? Anni. 50. Ma rimorte. Piano piano quando? Ma dai, come piano piano? Non mi sento pronto. Comunque qui l'aggressione sessista, qui trovi un baluardo, Già da venerdì trovi un baluardo, nel weekend con Twitter, cioè trovi un baluardo di difesa assoluta. Poi un sacco di cazzate le facciamo tutti, però il baluardo di difesa... Senti, posso dire una cosa su Twitter? Perché io con tutte queste cose non ci capisco niente. Ecco, vorrei specificare. Tu pensa uno a che cosa deve, se deve mettere a specificare che su Twitter io non ci sto, ci sta uno che utilizza la mia fotografia e il mio nome, ma non so io, non ci sto e non ci starò mai, perché non per fare il coso, perché non so capace e non mi interessa. Però ecco, vorrei specificare c'è un fake, magari c'è qualcuno un fake che parla a nome mio, quello lì non so io, è uno che si diverte, pensa te a che punto siamo arrivati, se aggrappasse a me, ma che gli frega, e che finge di essere me, non sono io. Vorrei avvertenza a tutti, non è lui quello presente su Twitter, no, perché lo sai che c'è gente poi che parla con quello, cioè ormai siamo arrivati al punto che nessuno si chiede neanche più se sta parlando con una persona vera, cioè così parla, vede un nome, la foto, parlano con quello. Ma è cioè, meglio l'originale o il fake, Leo? Il finto? Dice delle cose intelligenti ogni tanto, il finto Lucci. Ma non su lo Twitter. So, non lo so, a me mi hanno detto, una mi ha detto, perché non mi rispondi su Twitter? A parte che fino a 3 mesi fa non sapevo che era Twitter, poi ho imparato e mi ha detto, ma che è sta cosa? Non so niente. E continuano... Ma parlare con questo è una cosa assurda. Comunque pure la Lucarelli mi ha detto che sei volgare, che sei bollito, che sei patetico, e basta. Ma sì, vabbè, ma c'ha pure ragione, ma che non hai visto? Proprio in quel servizio chiedo aiuto per trovare un altro lavoro, perché non ce la faccio più, cioè è come vero. Ce la fai più? È vero, sono bollito, cioè sono... Cioè veramente non gliela fai più? Avanza, cosa? Vorresti andare via da Iene? Vorresti lasciare Iene e fare un altro lavoro? No, lasciare Iene... No, ormai sei drogato come noi con la zanzara, sei drogato. Sì, capito? Come Totti a Roma, non esci, capito? No, è come Totti a Roma non è male, però. Ah. Però Totti c'ha avuto qualche tentazione ogni tanto andare al Madrid, sì, io, però poi alla fine, capito, a casa mia, sto lì, io voglio bene. Fai il cazzo che te pare. I vecchi che stanno lì, siamo invecchiati insieme. Fai il cazzo che ti pare. Fai quello che te pare, dai, diciamo la verità, fai quello che te pare. Questa... Beh, abbastanza, sai, nella vita i compromessi ci stanno. Comunque, sempre. Chi è che ti fa più, tra queste donne ogni tanto ministre, deputati, chi è che poi quella che ti fa più sangue di tutti, che proprio dici, vabbè... No, sangue, guarda, io davvero, lo sai che c'è, che quando si fanno questi discorsi, non poi, dico più. Ecco, adesso ne stiamo parlando semiseriamente, adesso diventa davvero... orribile, no? Come linguaggio, un servizio scemo va bene, adesso già a sangue così, però ti devo dire una che è bella, una sì, bella è proprio quella, la Boschi è bellissima, ma no dai, ma come ma guardala dal vivo, è proprio bella, sì. Ma qualcuno dice che c'ha delle forme un po' rotondette, no pure io pensavo, invece è bella, vabbè, comunque e penso, poi vediamo, magari è anche bravissima e fra 4 anni diremo per fortuna c'è stata una grande ministra, ma dobbiamo mandagli un mazzo di rose. Hai mai mandato un mazzo di rose a qualcuno? Sì, sì. No, costano troppo, cioè, ma con tutto quello che guadagni, ma dai, guadagni un sacco di soldi, dai, su. Però capito, cioè, li utilizzo per i miei fratelli, cioè per c'ho un sacco di cose, dovessi credere che pure qua... buffi c'hai, no? No, io sono uno che sta attentissimo a tutte le cose, ma non spendi niente per vestiti, ogni volta giri come un disgraziato, che me frega se ho i vestiti dei Iene da 17 anni sempre di nero e bianco. Ciao Enrico, ciao, a presto, ciao, vi saluto, ciao, t'abbraccio, ciao. La zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa. Non c'è niente da fare, numero uno, quando uno è numero uno. Scusa anche. Ma che scusa, se proprio ho offeso qualcuno, chiedo scusa. Vedi, lui è capace di chiedere scusa. È sempre il numero uno. È giusto chiedere scusa ogni tanto. Sempre il numero uno, dai. Quando uno è numero uno, bisogna dire il numero uno. Dai. La zanzara dispettosa. Domenico da Roma, dai. Pronto? Vai, Domenico. Giuseppe, niente, ti volevo dire che Hai fatto una brutta figura lì a 8:30. Sì, sabato. Bruttissima, guarda, bruttissima. Brutta nel senso che non sei riuscito a spiegare bene lo scherzo. No, per carità, no. C'è la telefonata, insomma. No, una cosa orrenda è stata, una cosa terribile. Orrenda no, però insomma, l'esempio che portavi dalla telecamera nascosta. Esatto, Roma, sì, esatto. Esempio molto calzante. Vabbè, calzante, però quello te l'ha detto di santa ragione. Ma insomma, che ha detto di santa ragione? Vabbè, ma comunque vabbè, lei l'ha vista così, altre 2000 persone l'hanno vista in modo contrario, altre sì, 2000. No, però vabbè, lo so, io dico la mia, non c'è problema. Poi no, perché avete fatto tante belle figure, però l'unica cosa invece su cui sono d'accordo con sì, te, ed è all'inizio della trasmissione, è che magari hanno rincalzato un po' su questa telefonata con Barca, mentre altre volte, in altre occasioni, stesse telefonate, non hanno alzato tutta questa polvere. Ti pare poco quello che ho detto? Ti pare poco? No, infatti allora, sono d'accordo su questo. Va bene. Però quello che volevo aggiungere è il metodo. Il metodo comunque te l'hanno proprio sgamato. Infatti talmente sgamato che è 3 anni che andiamo in che continuiamo. Nicola da Pescara, talmente sgamato, guarda che Nicola da Pescara. Sì, ciao, buonasera. Dimmi. Volevo approfittare delle frequenze di Radio 24 per lanciare una raccolta fondi per il povero Carlo De Benedetti, per il problema Surgenia. Surgenia, la chiamo io perché è più da radio, no? È più da podcast. Ascolta però, è il nuovo Remida, solo che a differenza del Remida tutto ciò che tocca diventa merda. Allora, la prima cosa, Repubblica, il giornale più di merda che ci sia in Europa. Olivetti, 24 morti sospette per cancro dei polmoni. Sorgenia, come la chiami tu, un'altra cagata pazzesca. Raccogliamo dei soldini, visto che Renzi glieli darà sicuramente, anche perché l'ha spinto lì apposta, lo sappiamo tutti, no? Ha bisogno di soldi, quelli del loro Mondadori non gli sono bastati. Vabbè, ne diamo altri, facciamo una raccolta. Poi una cosa, non so che ne pensi tu di questo. Se vuoi rispondermi, poi se ti interessa dirmi qualcosa, non lo so. Dimmi, non sono qui a rispondere io. Allora, non rispondere, ti dico una cosa su Franceschini che è un pochino simpatica. Ministro della Cultura. Dimmi. Sì, meraviglioso. Allora, secondo me Renzi se ne deve liberare subito, ma non perché sia una cattiva persona. Perché? Ma è uno sfigato pazzesco. Ti rendi conto che lui ha chiesto le dimissioni di Bondi quando ci fu il primo crollo a Pompei? Adesso crolla, adesso crolla Pompei. Tre crolli, che ma questa è la politica. Questa è una è la politica, però. Non è la politica, è sfigato. Cioè, è neanche Giandomenico Fratta, una cosa incredibile. Tre crolli in 3 giorni, non si deve dimettere, deve scappare all'estero. È una cosa pazzesca. Gaetano da Napoli, grazie Nicola. Gaetano da Napoli. Giuseppe, dimmi, Gaetano. Posso parlare con te? Dimmi come no. Quell'altro non lo mettere in mezzo perché non capisce niente. Ecco, vai, caro. Che è successo? Dimmi. Io penso che io e te siamo sullo stesso livello. Addirittura. Amiamo le donne e le rispettiamo. Vabbè, questo fino a qui ci siamo. Dunque? Ma io mi sono stufato, guarda, non ce la faccio più. Dove vai le incontri? Ma chi? Le donne. Vabbè, per forza, sono più degli uomini. Ti dico un fatto che è capitato stamattina. Cioè? Sono andato al bar, di solito la cassiera è una donna, e chi mi fa il caffè è un uomo. Tu paghi, c'è una bella vista, poi dal barista e inizia a parlare del calcio, del Napoli che faceva schifo e compagnia bella. Giusto? Sì. Stamattina la scena era al contrario. Il barista stava alla cassa. Già inizia una brutta giornata. Allora? Poi vai al bar, prendi il caffè e vedi una donna. Non puoi dire una mala parola. Non puoi sfogarti. Ma chi l'ha detto che non si può sfogare? Ma appena parli e dici una mala parola, c'è una mancanza di rispetto personale. E dunque, qual è l'antidoto a questo? Che cosa dovremmo fare? Che purtroppo dovremmo ritornare ai ruoli. Ai ruoli, e sì, alle posizioni. Dunque? La donna... Mettere la donna alla cassa e il barista che è uomo. Sì. Sta nel bus. Sì. Sì. L'autista è una donna. Sì. Non ti puoi incazzare. No, certo. Ti trovi o no? Sì. Mi trovo alla grande. Sì. Aspetta che ti trovano questi qua adesso che arrivano, Questi due infermieri che arrivano, non ti preoccupare, adesso arrivano. Non ti preoccupare. Lorenzo da Trento. Lorenzo. Cruciani. Dica. Le volevo fare una richiesta molto molto sì, veloce. Non metta il viva voce perché non si capisce niente col viva voce, su. Tacci del Pippo, aspetti. Lo dico io, non lei. Sì. Ah, mi scusi, Allora? Senta, no, le volevo chiedere cortesemente se può trovare un errore fatto da un imam importante. Eccolo là. Così prende in giro i musulmani, così come ha preso in giro il Papa, perché voglio vedere se ha il coraggio di farlo. Dai. Ecco, è arrivato il genio là, è arrivato, dai, il genio, è arrivato, dai, il genio. Lo faccia, dai. Allora, se lo fa è uno che ha le cose. Senta, sotto, Lorenzo, io non ho problemi a prendere in giro gli imam quando è il caso. Il Papa parla in italiano, ha fatto quella piccola gaffe, è una cosa che gira in tutto il mondo, l'abbiamo fatto sentire, punto e basta. Gli amici della Zanzara di solito sono sempre molto seri. La Zanzara. Oh, ragazzi, si è dimesso il sottosegretario Gentile. Antonio Gentile, sottosegretario alle infrastrutture. Dopo la telefonata uscita tra lo stampatore di un giornale e l'editore di un giornale, in cui si chiedeva di non far uscire una notizia che riguardava il figlio indagato per vari reati, si è dimesso dal ruolo di sottosegretario. Dunque è stato sottosegretario Do Gentile. Beh, bisogna dire che c'è stato lo zampino di Renzi, il quale adesso verrà applaudito, no? Verrà incensato. Ma chi lo ha nominato? Chi lo ha nominato? È più una vergogna che sia stato sottosegretario per 12 ore. Vero, vero, vero, vero. Spegni la luce, passa dalla TV. Ai, ai, ti ha beccato. Ai, ai. Comunque, io sono stupito, sono basito del fatto che un signore che non è nemmeno indagato e che non è coinvolto in nessuna telefonata di pressione. Sì, ma c'è una questione politica, non sì, c'è sempre la giustizia. No, ma in questo caso non c'è nemmeno una. Capito? Una questione politica c'è. Ma scusate, ragazzi, la signora Barracciu, sottosegretario ai beni culturali, la quale non sapeva nemmeno che tipo di delega avrebbe avuto. Da lei, No, ma ho capito, la signora Barracciu, che è indagata per la questione dei rimborsi in Sardegna. Nulla? Nulla? Aspetta. Sì, ma chi li ha nominati questi qua? Aspetta che c'è tempo. Aspetta che c'è tempo. Dai, su. Dai. E balli su twist, e balli su twist, la zanzara twist. Una botta col bacio e poi all'altro una botta nel braccio. Poi dicono l'ex socialista signore delle tessere che fu arrestato per ordine di Gratteri. Fu arrestato, poi prosciolto. Prendila, prendila, dai, su. Prendila, prendila, stessa. Cioè, lo si accusa per la sua fedina, diciamo, geografica, per essere un calabrese che controlla voti. Questa è la realtà, un calabrese che controlla voti. Comunque alla fine la realtà è che Alfano si è piegato, signor Alfano, no? Quello che dice a schiena dritta che rivendicava il ruolo di Gentile, noi non ci tiriamo indietro, non ritiriamo Gentile, no? Perché si dovrebbe dimettere? Mamma mia. In realtà ha fatto un favore anche al suo partito a farlo ritirare. Ma che favore? Beh, insomma. Ma lei gira sempre intorno a me e balli su twist, e balli su twist. Vittorio da Parma. Sì, buonasera a tutti. Inerentemente a quest'ultima notizia, sì, non c'è proprio niente da dire, mi taccio. Però io volevo intervenire e chiedere a voi, perché mi si è riempita la macchina, mi è sembrato di puzza di paura quando è intervenuto quel signore delle Iene. Io non ho mai sentito Lucci chiedere scusa così tanto, definire così stupide, sciocche, cretine le sue parole. Mi è sembrato ci fosse puzza di paura, o mi sono sbagliato? Ma quale paura? Ma quando mai? Ah, no, un'impressione, perché tanta gente, ho saputo, perché non è che seguo molto le Iene, ho saputo che fossero rimaste offese dai servizi messi in opera dalle Iene. Non ho capito, di riconoscere dalla voce, però non ho mai sentito chiedere scusa così tanto, così tanta piaggeria. Proprio mi ha riempito la macchina, ho dovuto aprirmi i finestrini per farlo uscire. Ma non ha chiesto scusa. È stata un'impressione mia, magari. Ma no, non ha chiesto scusa, dai, non ha chiesto scusa. No, mi sono sbagliato, signore. Vabbè, grazie per avermi dato conferma che mi sono sbagliato. Buona serata a tutti. Vabbè, ma se avesse chiesto scusa? No, per l'amor del cielo, ma io non contesto chiedere scusa, io chiedo sempre scusa quando faccio cazzate, è una buona abitudine che mi è stata insegnata da mio padre. Però non è quello, è che ho molto, un po' di paura nei confronti di un personaggio che, pur essendo una bellissima donna, però adesso è ministro. Allora no, quello non c'è. Lei dice che è rimasto intimorito, intimorito dalla Boschi. No, ma no, così li ho sempre visti molto più aggressivi, ma forse è caduto un mito a qualcuno. Ma lui ha spiegato il senso del suo servizio. Francesco da Cosenza ha detto che era grottesco volutamente, quindi. Francesco? Francesco, sì, da Cosenza, dica. Sì, sì. Andiamo. Posso? Beh, sì, fino a prova. Posso, sì, intervenire? Sì, prego. Allora, io volevo fare una breve storia dei signori Gentile. I signori Gentile nascono negli anni 70 con Pino. Pino Gentile, che diventa consigliere comunale in mano a Mancini, al grande Giacomo Mancini. Subito dopo, il fratello Antonio, che era consigliere della Cassa di Risparmio di Cosenza, di Calabria e di Lucania, firmò assieme ad altri personaggi, sì, un prestito di 50 miliardi, sì, 50 miliardi di lire, sì, per la Ionica Grumi. Vabbè, adesso Francesco, abbia pazienza, non possiamo ritornare a quello che è successo negli anni 80, negli anni 70, eccetera. Ci dica la sua, no, su questo. Le voglio dire che è stato arrestato. E vabbè, è uno che è stato arrestato, portato in carcere. Ho capito, ma una volta che uno è arrestato e portato in carcere e poi prosciolto, di che stiamo parlando? No, non è stato prosciolto. Non è stato prosciolto. Benissimo. Poi ha avuto gli arresti domiciliari, subito dopo è caduto in prescrizione il reato. Vabbè, d'accordo. Dunque, quindi lui non può parlare di macchine del fango del figlio quando lui, insomma, è un personaggio un pochino così. Passò a Forza Italia perché venne espulso dal Partito Socialista. Vabbè, dunque? Voglio dire, lui si meraviglia che il figlio, che lui non c'entra col figlio. Lui non c'entra col figlio, in che senso, scusa? No, lui dice che lui non c'entra col figlio e piglia le distanze dal figlio. Ma se tu non sei stato neanche una persona per bene. Chi lo decide se uno è per bene o no? E chi lo decide? Innanzitutto penso l'opinione pubblica, i giornali. I giornali lo decidono se uno è per bene. È una serie di situazioni, certo, i giornali lo decidono, certo, i giornali, Francesco. Grazie, Marco da Bologna. Sei un buffone, dai. Sì, è arrivato un altro. Sei un buffone, è arrivato un altro. Marco, perché te non puoi parlare così della radio, della radio italiana all'azienda? Sì. Io voglio lanciare una sottoscrizione. Sì. Cioè, questa trasmissione deve chiudere. Sì, io deve spero chiudere. Che la gente capisca, perché ragazzi, non si può andare avanti così. È una vergogna. Sì. Perché tu non puoi. Questa non è cultura. Tu parli a 2 milioni di persone. Questa non è che cosa? Non è puoi calpestare la dignità della gente. Ma di cosa stai parlando? Ma di cosa parli? Ma di cosa parli? Non puoi, perché ma di cosa stai parlando? Il livello culturale di questa trasmissione pare zero. Sì. Tu non puoi parlare della gente. Vabbè, lasciatelo parlare, dai. Critica, lasciatelo parlare. La gente ti critica, ma te non hai le palle di ascoltarle. Te cosa fai? Mandi le ambulanze e non ti accorgi che l'ambulanza va mandata a te, non alle persone. Ma io ti sto lasciando parlare tranquillamente fino alla fine di questo delirio. No, ti spiego benissimo. Vai, tranquillo. Tu infanghi la reputazione delle persone che ti chiamano. Sì. E questa è una cosa gravissima. Tant'è vero che, come dici te, che adesso ti sta venendo la pippa, sì, anche il sindacato dei giornalisti ti ha mandato un provvedimento. Cos'è che ti ha segnalato? Sì, ma per comunque sia, questo non è il modo di fare radio. Mi ha segnalato, sì, mi ha segnalato alla questura. Quindi, certo, evidentemente, si chiudono la tua trasmissione e fanno solo bene, per quanto mi riguarda. Tanti soldi se li hai, non muori di fame. Abbiamo dei giornalisti freelance, delle persone giovani, che hanno voglia di lavorare al posto tuo. Bene. Tanto non cambia niente, tanto è molto meglio di te, perché tu non vuoi, cioè a livello giornalistico vali zero. Perché questo non è il modo di fare giornalismo. Vabbè. Tu dovresti istruire le persone, dovresti cercare di capire quello che vogliono dire. Tu invece non fai nulla di tutto ciò. Hai fatto? Hai finito? Cioè, anche perché a livello di informazione, secondo me, tu non svolgi un servizio. di istruzione politica alle persone, di conoscenza, ma dici solo merda su tutto e su tutti. Poi anche sei molto maleducato, molto maleducato. Hai fatto? Dici brutte parole. Hai fatto? E questa cosa non va bene, anche perché la gente giovane, sì, per esempio dei bambini, ragazzi giovani che ti ascoltano, non dai, sì, l'esempio giusto. No, no, no, no, no, no, no, no. Cioè, tu che vai a correre, fai la corsa, vai a correre, ma non dire queste cose, vai a fare jogging. Ma non dire queste cose. Ma questo che ha fatto secondo te? Il modo scurrile di rivolgersi a te. No, mi verrebbe in mente un sondaggio là sotto. Cioè, faresti educare tuo figlio a Giuseppe Cruciani? No, ma che ha fatto secondo te questo qua? Questo qua che fine ha fatto secondo te? Non lo so, poverino Marco da Bologna. Ha espresso il suo parere. No, ma che ha fatto secondo te questo qua? Che ha fatto? Non lo so che ha fatto. Si è svegliato male stamattina. Che ti piace la gnocca, va bene, non è un problema. Si è svegliato male stamattina. Sembra figa, figa, figa così. E parli a 20 milioni di persone, capito? Magari. Hai una responsabilità. Sì, ma se ti ascolta un bambino, bambino col padre in macchina che ascolta. Ma ti sei svegliato male stamattina? Lei giustamente non farebbe educare suo figlio. Senti, non dire puttanate tu. L'ambulanza, non dire puttanate tu. Perché questa cosa dell'ambulanza dire stronzate. Non va bene. Non va bene. Dai, perché? E allora non dire stronzate. È una persona che devi andare a prendere che sta male e senti la sirena, magari un medico si sbaglia. Sì. Sì, si sbaglia, sì. E poi comunque sia è una cosa offensiva per le persone che lavorano sulle ambulanze. E io spero che anche qui un bel provvedimento arrivi. Tanto già speriamo che De Benedetti si sia svegliato, che ti dia quattro calci nel culo con tutto il fan per fortuna non me li può dare i calci. Bene, ti sei sfogato? Sei tranquillo? No, perché scusa, anche questo modo di fare gli scherzi. Ma ti sei sfogato? Ma se a me mi chiama uno e ti finge magari la mia ragazza, una ragazza ti finge, io ci casco e gli dico quattro cazzate, ti rendi conto? Sì. Ti rendi conto cosa succede? Ma tu non fanghi la reputazione della gente. Bene, e meriti quello che ti meriti. Ma ti sei calci nel culo. Ti sei sfogato o no? Ti sei sfogato guarda, o no? Tanto scusa, non muori mica di fame. Ma ti sei sfogato o no? Guadagni 20.000 euro al mese. Ma ti sei magari ti sei un'altra cosa, parlerai di calcio. Ma ti sei sfogato o no? Ti sei sfogato o no? Ma siamo dei giornalisti precari. Ma ti sei sfogato o no? Ti sei sfogato o no? Ma ce l'hai fatto o no? Ma finalmente ce l'hai fatto. Ma ce l'hai fatto o no alla fine a sfogarti? Ce l'hai fatta. C'è bisogno di lavoro. Oh, ce l'hai fatta finalmente. Cosa ti dovresti in un certo senso vergognare? Ma infatti, ti sei sfogato finalmente? Continua a chiamare mignotte. Ma ti sei sfogato o no? Che non valgono un cazzo nella tua percezione. Vabbè, facciamolo continuare, che ci frega. Manda questo messaggio alle persone. Vedi cosa queste persone facciamolo continuare, ma che ci frega? Facciamolo continuare sto pazzo. Sì, ascoltami a me, anche il tuo modo di fare nei confronti comunque sia delle persone che non hanno lavoro. Vai. Ci vaffanculo, licenziamo tutti. Sì, sicuro, dico così. Che tu dici a calci nel culo li licenzierai tutti, ma ti rendi conto? Le persone che hanno bisogno. Comunque tu sei un fenomeno, mi sa che ti assumo, mi sa che ti assumo, lo sai? E te ne stai lì a parlare a tutti, lì sulla poltrona, ti rendi conto? Mi sa che ti assumo, lo sai? Mi sa che ti prendo quella radio. Che lavoro fai? Che lavoro fai? Te stai lì seduto, lei è là che ti fa il culo, è là per te, perché è là che difende. Marco, che lavoro fai? Che lavoro perché fai? Io ho fatto il giornalista come te. No, ma che sono fai? Sono un giornalista freelance. Ah, ecco. Venire al tuo posto. Ma io ti assumo. Ma ti assumo domani mattina. Ti assumo domani mattina. Ma vieni, ma vieni qui. Magari mi danno il posto a me e te ti cazzo una calcina in culo. Ma benissimo. Ma vieni qua tranquillamente. Sei assunto. Sei il numero uno. Vieni qua. Ti chiamo ogni... Ti dico una cosa. Ma chiamo ogni sera. Chiamo ogni sera. Ma che non ti conviene. Ma che non ti conviene, amico mio. Ma non ho problemi. Vieni qui. Non è che il tuo amichetto è meno di te, perché il tuo amichetto tu l'hai preso apposta, è uno che ti lecca il culo sempre, ma io veramente volta, sono in contrasto, perché una persona io che ha dignità la io con te la trasmissione non la faccio, io veramente la penso, la penso siccome senti la trasmissione, caro Marco da Bologna, siete tutti sulla stessa caro uguale, Marco da Bologna, se senti la trasmissione che un poveraccio, dici di fare, è un poveraccio. Sai che io quel che dico ma anche perché lo penso. Che altro gli chiudi la telefonata in faccia? Ma quale palle? Un buon modo di ma quale palle? Ma che Radio Capital? Infatti io vado sempre su Radio Capital. Infatti si vede. È una grandissima trasmissione. Infatti si vede. Però 20 minuti che telefona qua. La rispettosa degli altri. La differenza tua. Bravo, addio. Ciao. E anche zapping su Radio 1. Addio. Addio. Tutti a cambiare canale. Tutti, cambiate tutti. Faccio un appello, cambiate canale. Vediamo chi fa la pubblicità. Bravo, iniziamo da bravo. Qui, iniziamo a boicottare la trasmissione. Bravo. Poi vediamo chi avrà la dignità, chi ti paga. Senti, e boicottiamo la trasmissione. Vediamo se vuoi, se vuoi un contributo per mensile te lo do comunque. Un po' di soldini mensili te li do. Ciao, arrivederci, addio. È una cosa cosa indegna la sua trasmissione. La Zanzara. Siamo come lei, siamo come lei. L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per un'ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. Fate schifo. Sì, lasciatevelo dire. Una strada sicura nelle vostre città. Renzo da Teramo, buonasera. Non c'è Fabiano, provincia di Bologna. Pronto? Sì. Pronto, buonasera, signor Cruciani. Dica. Dica, pronto. Quello sfigato qua di Bologna, io sono di Casalecchio. Vabbè, ma lasci perdere, ognuno fa quello che vuole nella vita. L'abbiamo lasciato sproloquiare per 10 minuti contro tutto e tutti, va bene. No, l'ho sentito a metà, va bene, lasciamo andare. Io volevo parlare del Matteo, ma di che la vacca, maiala. Matteo Renzi. Che cosa vuole dire? Diavola. Ma Dio buono, lo fino all'altro settimana. Siamo tranquilli con Dio. No, sereni, sempre sereni. Allora? Sereni. No, nel senso che Dio buono. Ma ancora? Ma quello è. Ho capito, ma se lei lo capisce con due volte, con due mezze bestemmie, abbia pazienza. No, che mezze bestemmie? No, ci vabbè. Mancherebbe, io ce l'ho nel cuore, ce l'ho nella testa. E allora? Sono mezzo toscano, però mezzo bolognese. Non si vabbè, fa. Dunque? Qual è il problema? Senza di Matteo Renzi. Maremma diavola. Fino a 15 giorni fa non era nessuno. Lo odiavano tutti, li tiravano tutti addosso. Nell'arco di 4 giorni è stato il prescelto praticamente. Ma adesso lei sta parlando di una cosa passata, cioè non... che è passata, ma per una settimana, 10 giorni, ma di che? Ce le facciamo passare così sotto al naso? No, ma prima di telefonare, però non bisognerebbe bere più, esatto, più di tanto, insomma, bisogna fare una prova del palloncino. Adesso noi lasciamo le porte, come dire, i telefoni aperti. Bravissimo. Ma lascia stare. Almeno non si metta in macchina, stia lì a casa. No, io sono tranquillo perché io vado a piedi. Ecco, bravo. Allora, cosa ci vuole dire di Renzi? Andiamo al sodo, cosa ci vuole dire di Renzi? No, nel senso che no, non è che volevo dire io. No, non volevo dire, ha bevuto. No, volevo un'opinione da voi. Un'opinione da voi su che cosa? Sapere che 15 giorni fa non era niente, era un cane roccioso che dava fastidio. Ma chi era un cane roccioso? Adesso è diventato... Vabbè, no, ma adesso però dica la verità, non era solo vino. No, solo per sapere proprio la verità. No, perché... dai, siamo no. seri. Dai, appunto, siamo... era uno spritz, cos'era? Vodka martini, cos'era? No, ma dai, siamo... dica la verità, un prosecchino corretto. Sì, va bene, dai, quello appunto. Che bevi te. Quello che bevi no, te. Io prima di lavorare, no, dopo il lavoro, sì. Quello che devi te, io neanche né prima né dopo il lavoro. Da dimostrare. Ciao. La zanzara stronza. Ecco noi da Roma. Selma Dell'Olio, buonasera. Buonasera Cruciani. Eccoci qui, grandissima esperta di cinema. Sei ancora in quella commissione del Ministero? Siamo tutti decaduti il 15 dicembre, tutti. No, decaduti. Gravissimo. Così dicono. E che farà? Non ci sarai più in questa commissione allora? No, penso di sì, ma siccome sembrava che l'allora ministro Bright durasse, cioè che il governo Letta durasse, pensavano che forse voleva nominare una commissione sua, tutte le commissioni. Vabbè, adesso bisogna ricominciare da capo, diciamo. E adesso si ricomincia con Franceschini. Con Franceschini, chissà che succederà. Ma io non ho capito, ti è piaciuto questo Oscar a Sorrentino, alla grande bellezza, oppure no? Io dell'Oscar sono felicissima perché io sono grande sostenitrice di Medusa. Ah, per quindi, quello, vabbè, perché Sorrentino per dovrebbe ringraziare Berlusca, Sorrentino. Perché non l'ha ringraziato oggi Berlusca? Bisognerebbe chiedere a lui. Perché oggi ha ringraziato Maradona, non si capisce perché. Comunque, l'ispirazione Maradona, boh, chissà. Poi ha ringraziato, chi è che ha ringraziato? Fellini? Fellini si capisce perché, vabbè, voleva... perché il film è un po' felliniano. Diciamo così, sì, in teoria. E poi chi è che ha ringraziato? Ah, allora, i Talking Heads. I Talking Heads, gruppo musicale. Una cosa chic, un po' rock. Però doveva ringraziare Berlusconi, diciamo la verità, Selma. Ma non ringraziano mai Berlusconi. Dunque, tu sei contenta per Berlusconi? Sei contenta per Medusa? È come se l'Oscar l'avesse vinto Berlusconi. No, Berlusca, tu sei contenta per Berlusconi, dico. Io sono contentissima, sì, per Berlusconi, per Medusa, per Giampaolo Letta, sono bravi. Siccome tutti passano dei momenti difficili, sì, ora è sì, un film che è costato abbastanza, sono felice che vada bene. Che a me, come film, non mi è piaciuto. Non ti è piaciuto? Ma rispecchia l'Italia o no? Anzi. Ti ha? Indispettita. Addirittura indispettita, perché? Beh, intanto troppo lungo. Troppo lungo. Diciamo, sono stata attenta per circa una quarantina di minuti. Sì. E poi ho cominciato a guardare l'orologio. Ma io mi sono addormentato. Io mi sono addormentato, pensa te. Mi pensavo, ma è rotto l'ora, che succede? Però perché non voleva dire niente, c'era una massa di colori, di cose, di cretinate che non mi dicevano assolutamente niente. Va detto, a merito del film, che i film che dividono in genere durano. Però La dolce vita fu, all'epoca fu un film molto discusso, c'erano i pro e i contro, però perché era avanti i suoi tempi, questo mi sembra molto indietro. Intanto le feste sembrano scoppiazzate dal grande Gatsby di Baz Luhrmann. Vabbè, ma comunque a te che cosa è che ti ha indispettito? Il fatto che... Mi ha indispettito perché non mi ha divertito, non mi ha intrattenuta, mi ha annoiata. Poi francamente tutta questa adorazione per Servillo non lo capisco. È sempre uguale da un film all'altro, identico. La stessa faccia, sempre così supercilioso, scettico blu. Ma che immagine dà di Roma, dell'Italia? Ma nessuna, non dà nessuna immagine, perché non si capisce nulla di quello che vorrebbe trasmettere. Dovrebbe, un film deve trasmettere emozioni. Ma in film confuso, allora? Ma sì, una cozzaglia di immagini, quello dell'artista che dà le capocciate nel muro, e mi hanno detto, ma sai, è veramente esistito. Vabbè, ma non è un documentario. Gli americani, scusa Selva, sono impazziti allora. Gli americani perché è piaciuto allora? Scusa, a tutti gli stranieri, perché sono rimasti abbagliati da Roma. Roma è molto bella. Per Roma, sì, per Roma. Roma è bella, sembra, a loro sembra che dica qualcosa di profondo, anche se quelli più intelligenti hanno detto che sembrava l'artista in contemplazione di se stesso. Giraffa. Alla giraffa proprio abbiamo buttato per terra il Facebook, cioè proprio no, la giraffa no. Ma mi piace la poesia al cinema, ma non me la devi mettere così sotto il naso, senti il profumo come sono bravo. Ma l'avresti promosso come film con i soldi pubblici? L'avresti finanziato con i soldi pubblici? L'avresti dato un aiuto oppure no? Non meritava un finanziamento? Non perché non meritavo, no, sarebbe stato probabilmente finanziato non dalla mia commissione, perché io ero nella opere prime e seconde. Quello, diciamo, per quelli di cosiddetta interesse culturale nazionale, forse gli davano un contributo. Ma uno come, io non ho mai capito perché. Ma tu l'avresti fatto passare o no? Lascia perdere la tua commissione, l'avresti dato un contributo a un film del genere? Non lo so, perché sulla carta è molto, questo non, cioè, sono film, non si, sulla carta non si capisce molto. Puoi capire se c'è un senso, certo. C'è una trama, questa non è una trama. Vabbè, spiegami un po' una cosa, ma Renzi. Che te Renzi ne pare? Cosa? Sei pure tu innamorata di Renzi? Innamorata no, però quando ha fatto il suo discorso dopo aver vinto le primarie, ho detto eccolo, è arrivato Berlusconi Junior, quindi è lo stesso programma politico di Blair o di Berlusconi. Dici? Tutti e due li ho adorati, soprattutto poi Blair è proprio una mia divinità, e quindi penso che sia la salvezza non solo della sinistra ma dall'Italia, se solo riesca a fare le cose che dovrebbe fare. Ma lo voteresti pure magari? Lo voterei, certo, perché per chi vorresti votare? Scusa. E che ne so, Berlusca. Ma non può essere candidato. Per cui senza Berlusconi voteresti Renzi, diciamo la verità. Ma guarda, Renzi porta avanti esattamente il programma di Berlusconi quando è entrato in politica. Non è che coincide esattamente. Guarda, ma sì, le liberalizzazioni, tutto è esatto, è un programma di apertura, non è di chiusura, che vuole rendere più snella e più efficace. Mi sembra che sei innamorata più mi sembra che sia Berlusconi quello che regge la baracca, comunque c'è un patto segreto tra Berlusconi e Renzi, dice. Sì. No, guarda, se si vogliono fare le riforme che bisogna fare in Italia ci vuole l'accordo tra le due parti, perché non si possono fare con solo una parte politica. E quindi questa l'intelligenza di Renzi è stata di parlare con Berlusconi. Comunque oggi è già normale accordo. Comunque già oggi ha fatto fuori il suo sottosegretario di Alfano, questo Gentile. Sì, ho visto, ma quella è una cosa che mi ha fatto un po' schifo proprio per il modo, Perché? Ah, tu dici... Ma no, dai, è sempre la solita cosa, ma che palle, ma sono tutti corrotti, tutti... Ma è vero che in politica si è sempre usato il fango per tirare giù un altro, però insomma adesso basta, ma hanno proprio stufato. No, io non so perché la gente continua a mettersi in politica, io non lo farei mai. Lo so, ho capito, però questo qua pare che abbia contribuito a fermare le rotative di un giornale per non far uscire la notizia sul figlio, sai? Ma cosa... così dicono, sì, vabbè, ok, va bene. Rimane siamo senatore. Un paese che non è una meritocrazia, dove se sei potente puoi usare il tuo potere, perché... Più pulito c'ha la rogna, bla bla bla bla bla. Non me ne frega niente, voglio sapere cosa fanno. Ma Alfano? Che te ne sembra di Alfano? Ma ancora Alfano. Alfano. Mi sento di infierire. Non vuoi infierire su Alfano, eh? Beh no, però c'è una cosa che si dice, eh. Cioè, cosa? Un po', che si... quando se non hai il mento, è difficile che tu possa avere... Poi... Se non hai il mento? Il mento, non hai, ha un mento sfuggente. Ah, no? il mento. Il mento. Ah, perché se non hai fisiologicamente. Ah, se non hai il mento, com'è il proverbio? Se non hai il mento? Non hai la potenza, insomma, di fare le cose, non hai grinta. Il mento sfuggente rappresenta la persona un po' debole. Signor Mussolini è un bel mento, infatti. Magari anche molto simpatico, carino, dolce. Però debole. Bravo. Ciao esatto. Selma, presto. Ciao. Si dice in inglese debole, mente debole, mento debole. A presto. Mento debole. Ciao, presto, ciao. Roberto D'Asti. Sì, ciao, buonasera. Volevo intervenire sulla rimozione del sottosegretario Gentile. La trovo, insomma, obbrobriosa come situazione, se si pensa che la motivazione dovrebbe essere quella, insomma, come dicevi anche tu, Cruciani, che insomma controlla i voti. E allora cosa si deve dire del sindaco De Luca a Cattalerno, insomma, alle primarie fa prendere a Renzi il 97%. E risulta che abbia votato una persona ogni 29 secondi, insomma, cioè, chi controlla i voti lì allora? Però non succede niente. No, ma io francamente non capisco. Ma non è per questo che si è dimesso. E perché cosa, scusa? Perché non cosa? Mi sembra che sia perché dimesso per la questione dei voti, cioè, che controlla. Cosa? Il figlio di De Luca si è candidato con Renzi alle primarie a Salerno. No, scusate, però, non mi sembra che sia dimesso per questo. Per dire tutto no, normale. Ma spiegami perché. Beh, non è che devo spiegare, mi sembra evidente che non si è dimesso normale. Per questo. Succede, no, lui dice che dietro c'è la figura di un politico vecchio stampo che è stato nel passato coinvolto in vicende da cui è stato assolto. In questo caso non c'è nemmeno un'indagine. C'è mica per le vicende passate, sai. No, e perché cosa. Spiegami, perché per quelle attuali cosa, se lui non è coinvolto in nessuna indagine. Da un punto di vista politico, ma per le presunte, si vede, che ma era, si sapeva già prima della nomina, e si vede che Renzi non lo sapeva. No, i moralizzatori guardano solo da una parte, ma glielo dovete, guardate che dovete telefonare Alfano, cioè, dall'altro non si girano mai i moralizzatori. Evidentemente si fa sempre una parte politica. Però parte se questo, se il signor Gentile, che io mi auguro non va a dimostrare nulla, è tranquillo, non doveva dimettersi, doveva andare ad Alfano, puntare i piedi. Ma evidentemente e dire, Alfano gli ha detto va bene, e lui doveva rimanere. Allora fosse... ci sono dei leader in questo momento al governo che hanno una spina dorsale retta forte, no? Si vede a cominciare da Renzi a non so. Si è dimesso per le presunte pressioni fatte al direttore del giornale. Alfano, per dire, cioè, questa è una spina dorsale, non ha nessuno di questi spina dorsale. Ho capito, Franco da Milano. Sì, ciao Cruciani. Dimmi. Senti, io ti vorrei fare una petizione al contrario di quel meraviglioso che ti ha chiamato prima da Bologna, al contrario sì. Però, di fare una praticamente di fondi per sostenere il tuo meraviglioso programma che è una biga che te lo ascolto. Senti, il discorso è questo. Berlusconi ha fatto una prepista per quanto riguarda un attimo solo. La zanzara è come una droga, quando non c'è ti manca. La zanzara. Ronda, se va bene ronda. ma poi invece si appoggia proprio addosso a me. Vi salutiamo e benediciamo da Roma, amatissimi figli. Mauro da Roma, buonasera Mauro. Sì. Dica? No, eravamo con chi prima? Chi c'era? Franco da Milano, sì, Franco, Franco, dimmi. Non c'è? Recuperiamo, dai, Mauro da Roma. Oh, Cruciani? Dimmi, dimmi. Senti, no, niente, io ho sentito un sacco di questi che ti fanno, ti rimbrottano perché hai fatto quel scherzetto a Banca. Io invece sono uno dei tuoi sostenitori, hai fatto bene, 100.000 barca di seguito devi fare. Perché così la gente inizia a capire quello che fanno questi boiardi di Stato, capito? Questa gentaglia che tu la metti allo scoperto. Io non ho mai detto che barca appartiene a quella che tu chiami gentaglia, attenzione. Vabbè, per me gentaglia, vabbè, tutta gentaglia. Vabbè, questo lo dici tu, questo lo dici tu. Lo dico io. Questi, la pelle nostra ci vogliono, capito? Sulla nostra pelle, punto e basta. Hai perfettamente ragione, fai benissimo, continuate così. Scherzi, fino alla... ci dobbiamo tutti divertire. Grazie. Ciao, Francesco, provincia di Foggia. Francesco. Ciao, buonasera. Dimmi, dimmi. Buonasera. Niente, volevo soltanto dire che le persone che chiamano, che si incazzano con te per come conduci la trasmissione, non hanno capito niente, che non è lasciato nulla al caso, tutte le polemiche sono create ad arte perché fanno audience e il tuo modo di condurre va bene così, chi non vuole ascoltare cambia canale. L'unica cosa che a volte cercare per forza la polemica con delle frasi buttate lì proprio per incendiare gli animi, tipo? A volte sfocia, tipo tu sei molto liberalista, no? Inneggiavi a quel comico francese che parlava di cose antisemite e poi Paolo Sorrentino non può dire che una delle sue fonti di ispirazione è stato Maradona. Ma figurati, ha specificato subito dopo che nei loro campi queste quattro persone che ha nominato erano le migliori. E cosa ha detto che c'è di sbagliato? No, ma non Maradona è stato niente, il miglior calciatore ma al infatti, mondo, niente, sa la cosa sbagliata. Ma niente di sbagliato, ma per carità, ma figuriamoci. Perché devi parlare delle cartelle esattoriali di Maradona, che guarda, cazzo c'entrano con il fatto che è il miglior giocatore del ma calcio. Ma assolutamente, al mondo? Guarda, non c'entrano assolutamente nulla, Francesco, hai perfettamente ragione. Era una piccola, come dire, una piccola ironia sul fatto che in Italia oggi, in queste settimane, si è parlato di Maradona, soprattutto in relazione al fatto che vuole chiudere il contenzioso con fisco a 3 milioni di euro mentre gliene contestano 40, per me tra l'altro molte delle cartelle esattoriali sono state gonfiate in maniera assurda, te lo dico, e basta, appunto, molto semplicemente questo, ho fatto una piccola ironia sul fatto, beh, adesso le cartelle esattoriali le mandiamo a Sorrentino invece che a Maradona, figuriamoci se penso che devono essere mandate a Sorrentino. Cioè, una piccola polemica sul fatto che Maradona non è conosciuto in Italia solamente per essere un grandissimo campione, ma anche, scusami se lo ricordo, perché il fisco gli contesta 40 milioni di euro. Siccome ci riempiamo tutti quanti la bocca col fatto dell'evasione fiscale, eccetera, eccetera, no. Potrebbe anche non essere un modello. Nel loro campo, se uno è bravo, è bravo. Proprio quello che fanno la ho capito, anche Madoff, come diavolo si chiama, era bravissimo nel suo mestiere. Però poi ha fatto qualche piccola truffa, o no? Però era un genio. Ma quanti cantanti sono dei geni nel loro campo e poi si drogano e muoiono? Non magari c'è dubbio, infatti che non bisogna magari ergerli a simbolo della vita o a modelli di vita, scusi, se uno si droga sono fatti la vita, sono ma scusi vanno valutati, abbia pazienza, posso fare una piccola battuta sul fatto, come l'hanno fatto in tanti peraltro, perché ma ho visto su Twitter battuta, è un voler creare, ma figuriamoci, perché così si riprende un attimo l'attenzione dei radioascoltatori che si stavano assopendo. Ma non lo so, sono cose create ad hoc. Cosa è creata ad hoc? Sarà diverso, no? Se uno si droga, se uno si droga fa male a se stesso, se uno invece ruba al fisco, ruba a tutti, quindi allo Stato. E quindi mi pare un po' diverso il paragone che fa l'ascoltatore, mi sembra veramente stupido. C'è uno che ha un debito con che il fisco, c'entra. Giusto o meno che se sia. Se uno si droga, si vuol drogare, fa male, mi dispiace, ma fa male a se stesso, ma se uno è un evasore fiscale accertato, tant'è che deve fare un accordo con lo Stato per restituire una parte di quei soldi che lo Stato deve ricevere, mi sembra diverso, no? Di farlo diventare, sarà anche un grandissimo calciatore, sarà anche un grande calciatore, ma già ha rubato al fisco, si può ancora dire o no? In altri paesi, in altri paesi, le ricordo che il signor Maradona in galera. Ma dai, galera. Su, punto. Ma io poi, io mi dispiace, poi tra l'altro, Francesco, lo dico io, con, essendo convinto che le cartelle, la quantità di cartelle esattoriali è stata gonfiata dalle sanzioni, eccetera, eccetera. Ha capito o no, Francesco? Sì, ma lui non ha detto. Vabbè, ma io non volevo prendermela con Sorrentino. Ha detto uno dei miei modelli è stato Maradona. Mi sono ispirato a Maradona. Abbia pazienza, mi sono ispirato a Maradona. Benissimo, ho fatto una battuta. Benissimo, sei ispirato anche per quello che riguarda il suo rapporto col fisco. Allora gli giriamo le cartelle esattoriali. Se non è piaciuta questa battuta, non sono certamente un comico e va benissimo. Però era una battuta. Non volevo dire che Sorrentino è un bandito perché ha fatto un riferimento a Maradona. Solo da noi capita che si facciano riferimenti a persone che hanno debiti con il fisco di 40 milioni. Di euro, giusto o sbagliato che sia. Franco da Milano era con noi prima. Franco. Sì, ciao Cruciani, come anche Tiziano Ferro, Valentino Rossi, patapim patapam e compagnia bella per quanto riguarda il fisco. No? No, era giusto per collegarmi al discorso di prima. No, però io volevo parlare di una cosa soltanto. C'è l'implosione del centrodestra già, c'è già Formigoni, c'è questo sottosegretario che oramai è andato, c'è Berlusconi, ha già lanciato le sue micce in giro e perciò l'imperatore è ancora sovrastante sull'Italia. Berlusconi non c'entra niente. No, ma fidati Parenzo che così lui ha già guarda che Berlusconi non c'entra proprio niente, cioè Formigoni è indagato per le vicende di quando era governatore della regione della regione Lombardia dal 94 adesso fino a qualche anno fa, fino a due anni fa. Poi dimmi Parenzo. Ma Berlusconi, non è che c'entra Berlusconi in questa roba, c'è sempre Berlusconi. No, anzi, io fossi in Gentile andrei sì, lì chiederei asilo a Forza Italia, sì, forse questo lo farei, ecco, se fossi. Ma vedi che chi tocca l'imperatore non ce n'è per nessuno. È capitato con tutti gli altri, Di Pietro Insegna, Fini Insegna. Un attimo solo. Squilla il telefono della zanzara. Anche il mio squilla però. No, ma non è il tuo. A meno che non si sono sbagliati, perché ce n'hai due adesso. No, ne avevi? Bravo, ne ho uno solo. Sono al Colosseo, sto andando del debito. Non me ne frega niente. Cerca di parlare bene al telefono che se no sente male. D'accordo, quel che faccio, devo fare? Si sente male, già si comincia a sentire male. Mario da Cagliari, dai, Mario. Peppe Cruciani! Ecco, un altro Peppe matto. Peppe Cruciani! È arrivato un altro matto, controllo! Dai. È arrivato quello controllo! Quello è Dante Cruciani. Lo so che era Dante, ma era il grande Totò, Dante Cruciani. Si adatta, ce n'è bisogno. Grandissimo. Buon lavoro, ragazzi. Ma che vuoi? Volevo dire questo, basta. Vabbè, ma lei è impazzito, cioè chiama, sta in onda per 20 minuti per è da dire... che sono impazzito. Vabbè. Parenzo, ciao. E che era? Mauro da Genova. Mauro, non c'è più, dai, non c'è più. Non mi molesti il moschito, non mi molesti il moschito, non mi molesti il moschito. Why don't you go on? Non mi molesti il moschito, let me my burrito, non mi molesti il moschito. Raffaele Milano. Raffaele da Milano. Nathan, provincia di Macerata. Crocetti, buonasera. Sì, Crocetti una minchia, Cruciani, dai. Una parola veloce su Lucci. Cruciani. Cioè, Lucci. Ah, Cruciani, scusate. Lucci è uno dei più grandi giornalisti che ci sono in Italia. A parte non che non fa il giornalista, ma comunque insomma uguale. Vabbè, ma con lei fa il giornalista, eppure. Cioè, veramente, dicendo, in teoria sì, ma comunque. Vabbè. Cioè, per alcuni i poteri forti, ma non solo i poteri forti, ma anche il senso comune, moralista. A ha fatto un servizio sull'Aquila, sui terremotati dell'Aquila, da farci da far accappolare la pelle sulla convivialità ritrovata, tutto sto perbenismo, cioè i grandi editorialisti hanno fatto colonne e colonne sul culo della Boschi. Lucci è andato solo lì, ha detto, ma quanto sei figa, è un grande, un grandissimo giornalista, quindi vorrei dire abbasso Parenzo e viva il culo della Boschi. Va bene, grazie. Pietro da Roma. Buonasera. Dimmi. Allora, dunque io vorrei intervenire sulla grande bellezza, che diciamo la grande sfrontatezza, la chiamerei. In che senso? Un film mediocre, sopravvalutato, un premio dato dagli Yankee americani. Dagli Yankee americani? Ma che vuol dire dagli Yankee americani? Sì, dagli Yankee americani. Ma che vuol dire, ma che vuol dire dagli Yankee americani? Dagli americani, quelli che ci vengono a mettere le basi NATO, che cos'è, un altro piano le basi NATO, le basi NATO, ma le basi NATO a 50 anni che stanno in Italia, Pietro, e meno male che ci sono state le basi NATO in Italia, amico mio. Ma non direi, non direi. Meno male, meno male che ci sono state. Lo so, Cruciani, che lei andrebbe avanti a hot dog e hamburger, come ha detto. Sì, hamburger, volta. Sì, sicuro, guarda. Sì, sì, a go-go, Coca-Cola, così sì. Come gli ucraini che stanno combattendo per avere qualche McDonald's in più e per prostituirsi più facilmente a Las Vegas. Vabbè, poi? Poi? Niente, quindi la mia critica è verso questo film, è verso i protagonisti di questo film, queste mediocrità adesso elette mediocrità. a eroi della patria. Sì, sì. Sì, esatto. Sì. E quindi volevo fare questo intervento. Questo intervento, bene, un altro da curare. Raffaele da Milano. Sì, pronto, buonasera Cruciani. Dimmi pronto? Raffaele, dimmi. Allora, volevo dire, io avevo chiamato prima delle votazioni per il signor Albertini, gli avevo detto che praticamente è l'emblema dei politici che hanno il culo come la faccia e la faccia come il culo, perché ha cambiato casacca non so quante volte, come diceva bene lei prima. No, veramente io ho detto una cosa, ho detto che è passato, ho detto sì. Che ha cambiato casacca, perché in fondo poi non è che abbia cambiato schieramento, ho detto che è passato da Berlusconi a Monti, quella che lui stesso adesso chiama sciolta civica, sì, bravo, e poi bravo, successivamente bravo. Adesso con Alfano, però non è che si è spostato molto, come dire, dal, no, dalla suo ambito. Sì, ho capito. Ma cosa punta alla poltrona? Cosa punta ad avere un incarico? Cosa punta? Capisce? Un'altra cosa, poi, se mi permette, due mezze cose. Il signor che è stato scarcerato per l'omicidio del collega, praticamente è stato, praticamente, come, perché è stato scarcerato? Perché è stato? Mi dica un po'. Guardi, è stato scarcerato perché non è omicidio volontario. Sì, voglio dire, è stato praticamente il tassista è lento nei suoi confronti. Ma secondo lei, quando un marito ammazza una moglie e non c'è una lite violenta anche in quel caso lì, o che se facciamo? La scarceriamo tutti gli uxoricidi? Finché non c'è una condanna, non è che la scarcerazione, poi ci sarà un processo con una condanna. Non, e poi è, mettono, non è che poi resta fuori per tutta la vita, quello là probabilmente la galera se la farà, perché se uno muore, uno la galera un po' se la farà, no? Sì, sì, sì, speriamo che questo vada a finire in questa maniera. Vabbè, amico mio. Mi fa capire come faccio ad avere un orgasmo tutte le volte che sto venendo, 10 minuti di trasmissione e 5 minuti di pubblicità, e voi mi fate un coito interrotto, io non riesco a venire tutte le volte che praticamente voi mi interrompete con la pubblicità, 5 minuti di pubblicità e 10 minuti di trasmissione, io non ce la faccio più avere coito interrotti, scusi, e non ce la faccio. Lei ha perfettamente ragione. Cosa vuole che le dica? Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino, ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino. C'è l'aria delle cornute che non sono altro. Questi sono dei cornuti. Cosa ti devo fare? Ti farò quello che vuoi. Ma che mondo è questo? Ma in che cosa sei riuscito a trasformarlo? Se non vuoi mettermi in culo. Gennaro da Milano, buonasera. Ciao, buonasera. Dica. Buonasera, guardi, io volevo intervenire per quanto riguarda la storia di Maradona. Sì. Cioè, dico, ma perché questi perbenisti si scandalizzano così tanto di sta cosa di Maradona? Non ho capito, ma quanti personaggi pubblici sono stati beccati con le mani nella marmellata e poi si sono messi d'accordo, hanno condonato? Ma io infatti non l'ultimo mi... L'ultimo condono è quello fatto alle slot machine, no? Ma guardi che io quindi... non mi scandalizzo per niente se Maradona dovesse fare un accordo con il fisco. No, non parlo di lei, parlo in generale questi perbenisti del cazzo, scusi il termine, che... ma io non ho problemi, che chiamano, no? Che ho questi grandi editorialisti poi che sparlano, no? Ma di chi? Questo volevo dire. Ma di chi sparlano? No, in generale, cioè, parlano male. Quando Maradona è venuto in Italia l'ultima volta, sì, guardi, Gennaro, se uno ha commesso, forse, vabbè, scusi, forse sono di parte perché magari sono napoletano. Se uno ha commesso delle cose che non andavano fatte, se uno ha non si è difeso nei tempi in cui doveva difendersi, purtroppo il fisco italiano prevede delle cose anche assurde, per carità. Adesso si vuole mettere, sì, d'accordo. Speriamo. È vero, per carità. No, ma lui ha sbagliato. Speriamo si metta d'accordo col fisco, punto e basta. Va bene. Solo che i suoi affari non erano gestiti da lui. Va bene, Renzo, ecco. Renzo da Teramo. Sì. Dimmi. Cruciani? Dimmi. Posso? Sì. Allora, intanto voglio segnalare che Gentile, il sottosegretario che si è dimesso oggi alle 10.38 di questa mattina, diceva non mi dimetto, alle 19.57 si è dimesso. Che cosa è successo in quelle quasi 9 ore? Renzo, sei dispiaciuto di questo? Ma non me ne importa assolutamente nulla, non me ne importa assolutamente nulla. Mi sembravi dispiaciuto. No, dico semplicemente una cosa, che il signor Gentile è stato nominato qualche giorno fa, quando da qualche giorno le cose non sono cambiate, sono sempre le stesse. Cioè, quello che si sapeva su Gentile prima lo si sa adesso, cioè non è che è come Formigoni, che ne so, che adesso è rinviato a giudizio, no. Le stesse cose le conoscevamo prima, identiche, uguali, spiccicate, non è cambiato nulla. Però ci sarà un problema di opportunità, sì o no? Io non ho fatto nulla, non c'è stato nulla di strano, non c'è stato nulla di diverso da qualche giorno a questa parte. C'erano le stesse inchieste giornalistiche, le stesse cose, la vicenda del quotidiano era conosciutissima anche prima, la conosceva Renzi, eccetera, eccetera. Per cui c'è stata il montare dell'opinione pubblica e Renzi si è fatto condizionare dall'opinione pubblica, lo stesso Gentile si è fatto condizionare dall'opinione pubblica. Punto e basta, perché non è che ci possiamo venire a raccontare che sono dimissioni spontanee, no? Cioè sono dimissioni che sono intervenute dopo che lui stesso aveva detto che non si dimetteva. C'è stato un accordo politico tra Alfano e Renzi, questo mi appare evidente. Ci sentiamo domani 18.30, ciao. Il vero successo è sta sudana guancia. È la nuova bellissima ministra per i rapporti col Parlamento. Oh, Amarie, sei una figa strepitosa. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ma di che stiamo parlando? Radio 24. La passione si sente.